adesso do la parola alla professoressa Maria Garbari, che insegna all'Università Temple, ma che è più di casa qui di tutti noi, nel senso che è una studiosa trentina e che ha dedicato molta parte della sua attività a temi legati alla storia trentina, alla storia dell'irredentismo, che ha pubblicato un importante lavoro sul il problema dell'irredentismo nella storiografia italiana e che su questo stesso tema riferirà qui questo problema. Naturalmente non devo tutto riassumo. Vorrei anche precisare che il titolo esatto di questa mia relazione, più che l'irredentismo nella storiografia italiana, potrebbe essere l'irredentismo come problema storiografico nella pubblicistica italiana. Dunque, l'irredentismo, per quanto fatto oggetto di numerosi lavori, contributi, trattazioni, memorie, è privo di una storia scritta in forma organica e scientificamente documentata. Non può essere considerato infatti una storia dell'irredentismo il pur pregevole lavoro di Augusto Sandonà pubblicato tra il 32 e il 38, anche se rappresenta un punto obbligato di riferimento per gli studiosi, data la ricchezza della documentazione reperita presso gli archivi di Vienna e di Innsbruck, ampiamente riprodotta nel contesto dei tre volumi. Ecco, sorvolo le motivazioni per le quali non ha una grande sostanza come storia dell'irredentismo, eventualmente le riprendiamo nella discussione. Nemmeno il volonteroso contributo alla ricostruzione dell'irredentismo delle origini e delle sue componenti democratiche e repubblicane, dovuto a Nicola La Pegna, con i due volumi apparsi nel 32 e 35, può essere sostitutivo di una storia per quanto parziale. L'opera, sfrondata dall'alone retorico e utilizzata solo per la parte relativa ai documenti, resta comunque uno strumento primario per il lavoro degli studiosi. Di beato spessore scientifico si presenta il volume di Francesco Salata su Guglielmo Oberdan, pubblicato nel 24. Sotto certi aspetti, esso è una storia dell'irredentismo nei territori del litorale del Regno, dalle origini all'esecuzione della condanna a morte di Oberdan, sorretta da un considerevole apparato documentativo e da una copiosa bibliografia. Non altrettanto si può dire della coeva storia di Trieste di Attilio Tamaro. Sull'impostazione ideologica dell'opera basta il pronunciamento entusiasta di Paola Maria Arcari, che cita l'autore come lodevole esempio di storiografia nazionalista. Del ponderoso volume di Mario Alberti, Il Redentismo senza romanticismi, non varrebbe forse la pena di fare menzione, se non per la ricchezza di dati storiografici di parte italiana ed austriaca e il riferimento a una vera messe di fonti, documenti e testimonianze. Anche la storia di Trento, dalle origini al fascismo di Gino Cucchetti, che al irredentismo concede ampio spazio, può essere considerata solo come esempio di storiografia del regime, come il lavoro dell'Alberti. Ampi riferimenti alle questioni legate all'irredentismo sono presenti nella storia parlamentare, politica e diplomatica d'Italia di Saverio Cilibrizzi. Ma nonostante il richiamo al più ampio contesto di politica interna ed estera, insieme rimane abbastanza frammentario e limitato ad elemento esclusivamente informativo. L'unica vera storia dell'irredentismo rimane tutt'oggi quella inserita da Gioacchino Volpe nel contesto dell'Italia moderna, anche se frammentata nel più ampio discorso di un'Italia avviata ad esprimere la propria forza di grande potenza, purché compatta intorno all'ideale dell'interesse della nazione. È innegabile che i giudizi del Volpe risentano di un forte sentire nazionalista e pertanto vadano decantati dai toni più strettamente legati al suo credo politico. Ma è altrettanto vero che proprio per il primato dato alla politica estera anche per la soluzione dei problemi interni del Regno, egli proietta l'irredentismo in un contesto internazionale senza lasciarsi irretire dal compiacimento per le solo manifestazioni rumorose che hanno alimentato la quasi totalità della pubblicistica nel primo dopoguerra. irredentismo e il ruolo che esso ebbe nelle vicende italiane appaiono poi in talune opere di carattere generale, come nella storia della politica estera italiana di Federico Chabot e in quella di Carlo Morandi. Fondamentali per tutte le questioni legate all'irredentismo sono i lavori di Leo Valiani, dove il caso degli italiani sudditi austriaci è solo uno dei tanti problemi nazionali che hanno travagliato la monarchia asburgica prima della sua dissoluzione. Né possono essere dimenticate opere dedicate alla neutralità e quindi all'entrata in guerra dell'Italia, come quelle di Luigi Albertini e di Brunello Bigezzi. Un posto a sé meritano gli studi sulla politica estera italiana di Gaetano Salvemini, che per taluni momenti, in rapporto a alcuni protagonisti del quadro italiano ed europeo, può essere vista anche come una storia dell'irredentismo. Poi, attenzione all'irredentismo, prestano anche opere di autori stranieri dedicati all'Italia, ad esempio Heinrich von Watson. Ecco, questi rapidi accenni sono rapidi, molto sintetici, ad alcuni fra i più noti lavori che affrontano il tema dell'irredentismo, senza tuttavia farne una vera storia, possono contribuire a porre una questione di fondo. La carenza o la settorialità della produzione storiografica risente della mancata o inadeguata precisazione concettuale del significato stesso del termine irredentismo, sotto il quale sono stati collocati processi storici e istanze diverse. Di questa inadeguatezza interpretativa, un esempio è la voce irredentismo spesa dal Tamaro per l'Enciclopedia Italiana. Eppure, con estrema precisione, i caratteri e i problemi dell'irredentismo erano stati delineati già nel 1874, nella nota che il ministro degli esteri Andrassi aveva inviato all'ambasciatore austriaco a Roma. Tale nota rappresentava, dal punto di vista politico, i criteri ai quali si sarebbe attenuto il governo viennese nella questione del Trentino e del litorale, tenendo presente l'intera politica europea. Considerata però dal punto di vista dell'interpretazione storiografica, essa nota delineava le condizioni in presenza delle quali si originavano le istanze irredentistiche. Una minoranza etnica collocata sulla frontiera e confinante con lo Stato connazionale, intesa a chiedere la coincidenza fino ai minimi dettagli fra Stato e Nazione, dopo che i grandi processi di unificazione si ritenevano ormai compiuti e, sia pure con fatica, raggiunto un equilibrio stabile in Europa. Ammettere il principio delle frontiere etniche per accettare le richieste italiane, e sempre la voce di Andrassi, avrebbe significato mettere in moto richieste simili da parte di tutte le altre nazionalità e provocare un moto centrifugo, tale da smembrare non solo la duplice monarchia, ma molti altri stati, con complicazioni insolubili nei territori dove i gruppi etnici risultavano intrecciati e la grave compromissione dell'equilibrio europeo. Basterebbe il richiamo a questa nota per comprendere come l'irredentismo non rappresenti un problema locale e circoscritto, per quanto virulento e illuminato dalla generosità dei patrioti, ma, come già dicevamo, in una settimana di studio dell'Istituto Italo-Germanico, 82 se non sbaglio, una questione facente parte dell'intero complesso dei problemi europei al centro di preoccupazioni diplomatiche il cui punto di riferimento è il quadro internazionale. Proprio perché l'irredentismo poteva assumere un carattere esplosivo per rovesciare l'Europa degli Stati in quella delle nazioni o rappresentare anche uno strumento utile a programmi imperialistici, esso fu ampiamente considerato dalla diplomazia degli Stati e non solo di quelli di Austria e Germania. Furono soprattutto due potenze esterne alla triplice, Gran Bretagna e Francia, a seguire in modo puntuale e spesso con acuta penetrazione i problemi sollevati dall'irredentismo nel regno italiano e sul piano dei rapporti internazionali. Le note e i dispacci diplomatici confidenziali intercorsi tra gli ambasciatori inglesi in Italia e diversi ministri degli esteri britannici sono fondamentali per capire cosa significasse l'irredentismo perché operava nella prospettiva dell'equilibrio, della stabilizzazione e della pace europea. L'Inghilterra, pur favorevole all'unità italiana, riteneva che la plurinazionale monarchia di Asburgo fosse una delle chiavi di volta dell'intero sistema europeo, posta come era fra Russia e Germania. Per questo, qualsiasi modificazione dei suoi confini, dettata da richieste nazionali, avrebbe potuto avere un effetto destabilizzante. Di qui la chiusura inglese per le stanze irredentistiche, pericolose nel regno e ancor più sul piano della politica internazionale, dove, oltre a tutto, avrebbero potuto complicare la già scottante questione balcanica. Il consenso britannico e la stipulazione al mantenimento della triplice non significava, tuttavia, disconoscimento della tutela dei caratteri nazionali per italiani sudditi austriaci, dei quali si conoscevano bene i problemi ed anche le differenze intercorrenti fra Trentino e Litorale e la concezione inglese di nazione. Una nazione può essere tutelata anche in uno Stato plurinazionale. Anche i dispacci diplomatici degli ambasciatori francesi in Italia sono altrettanto ricchi di indicazioni sull'irredentismo, soprattutto dopo l'invio di Barrère a Roma. Le valutazioni di parte francese sono imperniate sulla possibilità di operare un prudente e lento distacco dell'Italia dalla triplice, puntando sui motivi di contrasto con l'Austria. Di notevole interesse, poi, sono i numerosi documenti relativi al periodo della neutralità italiana, documenti che cominciano addirittura con agosto del 14, quando la rivendicazione delle terre irredente, e non soltanto delle terre irredente, divenne oggetto di pattuizioni e di scambi di pareri con Gran Bretagna e Russia fino agli accordi formali dell'Italia con l'Intesa. Altrettanto fondamentale risulta la conoscenza dei documenti diplomatici della Germania, interessata alla stabilità della triplice e quindi a vigilare affinché l'irredentismo non pregiudicasse in modo irreversibile i rapporti fra Italia e Austria o potesse portare a un rovesciamento delle alleanze in nome di diritti nazionali che si ritenevano calpestati. Qui do solo un esempio. Il 12 maggio 1904 il segretario di Stato per gli affari esteri, il von Holstein, preoccupato per la cordialità dei rapporti tra Francia e Italia, annotava come il riavvicinamento dei due paesi era attribuibile alla volontà di conquistare attraverso uno sforzo comune l'Alsazia-Lorena per la Francia, le province italiane e le coste adriatiche dell'Austria per l'Italia. A tale fine, si diceva, si aspettavano le congiunture favorevoli e l'avvicinamento alla Francia dell'Inghilterra. L'esame dei documenti diplomatici delle maggiori potenze europee, vi ho dato qualche esempio, dimostrano fra l'altro quanto fosse l'effettivo spazio decisionale lasciato alla politica italiana e rende persuasi come una storia dell'irredentismo non possa farsi in modo corretto senza inquadrarla nella generale storia europea. Essa, a meno che non voglia ripercorrere i consunti cammini della geografia e del localismo, deve superare l'idea del conflitto a due, Italia ed Austria, per tenere conto di tutte le costanti e delle varianti politiche presenti sul piano internazionale dopo la conclusione del Risorgimento. L'indeterminatezza riscontrata all'interno della produzione storiografica in merito all'esatta connotazione del termine irredentismo non ha tanto influito sulla datazione delle sue origini, collocate pur con qualche variante tra il 1866 e il 1870, quando proclamata l'unità d'Italia, avvenuta la cessione del Veneto da parte austriaca e occupata Roma, non era più possibile sperare in congiunture internazionali con della volontà di guerra del fragile regno per una ulteriore modifica di confini. Solo all'interno di lavori geografici o in talune opere di parte austriaca si attribuisce un significato irredentistico al complesso delle attività nazionali precedenti il 1866, addirittura si sposta alla fine del Settecento irredentismo. La mancata chiarificazione del termine ha avuto invece ampie ripercussioni sulla storiografia risorgimentale italiana, che presenta la tendenza a escludere il Trentino litorale dal processo indipendentistico ed unitario culminato nella proclamazione dell'Italia unita. Se questo può essere in parte ragionevole per Trieste, nonostante Carlo Schisler identifichi nella cultura democratica di stampo italiano presente nella città e nel movimento a carattere repubblicano suscitato da Giovanni Orlandini per rovesciare il governo austriaco nel corso del 1848, un chiaro pronunciamento di carattere risorgimentale, ecco, questo non lo è per il Trentino, che con la presenza dei fuoriusciti, combattenti nell'esercito regolare o in quello garibaldino, con appelli alle autorità e alla diplomazia internazionale e con pubblicazioni rivolte all'opinione pubblica, non può certo considerarsi assente dal generale processo del risorgimento. Dunque, per la storiografia, per il Trentino e anche per il litorale, parlo della storiografia risorgimentistica, solo le pagine geografiche dell'irredentismo che dividevano gli italiani sudditi austriaci in buoni patrioti e in austriacanti, senza rendersi conto delle forme molteplici e delle sfumature che in queste province aveva assunto la difesa nazionale. Un fondamentale contributo storiografico sui modi di intendere la questione nazionale e le correlative scelte di natura politica e operativa è dato dal saggio di Umberto Corsini La questione nazionale nel dibattito trentino, nel quale si precisa con correttezza il significato e la consistenza dell'irredentismo. Il movimento nazionale delle province soggette alla sovranità asburgica si sviluppò infatti su tre versanti: quello della difesa culturale dell'identità italiana, in realtà non minacciata se non a fine secolo e all'inizio del Novecento; quello di carattere istituzionale e strettamente legalitario, che richiamandosi all'assetto costituzionale della monarchia reclamava l'autonomia separata dal Tirolo tedesco per il Trentino e la salvaguardia delle tradizionali autonomie territoriali. Vi era, infine, il progetto di distacco dall'Austria con modificazioni dei confini politici e conseguente passaggio dei territori a Italia. Solo quest'ultimo, a diritto e a rigore logico, può essere chiamato irredentismo. Così chiarito il termine, va riconosciuto che il movimento irredentistico fu opera di una minoranza, in alcuni momenti in taluni ambiti territoriali molto esigua, e pertanto di questo termine è scientificamente scorretto farne un uso estensivo per comprendere sotto di esso processi, istanze e programmi che con l'irredentismo non hanno nulla da spartire. L'opzione per l'irredentismo, ossia per il programma di massima per la soluzione territoriale del problema nazionale, per le circostanze di politica interna ed estera risultava però più come affermazione di principio che come impegno programmatico realizzabile in tempi brevi. Per questo anche i patrioti più convinti della necessità della modificazione dei confini, rendendosi conto della situazione italiana, austriaca e internazionale, ripiegavano su più realistici programmi di minima e davano la loro opera all'interno delle attività legali rivolte alla difesa nazionale ampiamente condivise, la lotta per l'autonomia e la salvaguardia delle antiche prerogative delle province e dei comuni e la tutela culturale della minoranza italiana. Dei diversi modi di combattere la difesa nazionale sotto i quali a volte si mascherava il programma di massima, la storiografia deve tenere conto per ricostruire l'esatto volto assunto dall'irredentismo. Ciò che non è possibile è dare una valenza irredentistica a tutto ciò che, prima della dissoluzione dell'Austria-Ungheria, potesse esprimersi con il linguaggio dell'italianità, come ha fatto Andreotti con il Conte Gasperi, che era tacciato irredentista, niente irredentista non era, anche per fare un esempio. La produzione stampa, adesso passo alla produzione vera e propria, fra le due guerre, dovute in gran parte a protagonisti e testimoni, si mosse raramente nella direzione della serietà scientifica, intenzionata com'era a dilatare al massimo il significato irredentistico dei comportamenti delle classi dirigenti e delle popolazioni. di questa massiccia produzione sarebbe qui troppo lungo fare l'elenco. Qualche interesse all'interno di questa fioritura di scritti presenta il volume del 1919 nell'Archivio del Trentino, dove alcuni autori provengono dagli studi storici. Qualche pubblicazione poi abbastanza degna si trova nelle monografie della Regione Trentina e della Società del Museo del Risorgimento in Trento, anzi, fu proprio nell'ambiente del Museo del Risorgimento di Trento che nacque il lavoro di Augusto Santonà. Nel 32, presso l'editore Vallardi in Milano, usciva poi in due volumi il lavoro a carattere divulgativo di autori vari per Relente e Adriatico. Il primo volume dedicato a Trentino Alto Adige, l'altro ad Abrezia e Giulia. Ecco, in questa pubblicazione, in particolare nel secondo volume, Venezia e Giulia, può essere colta una caratteristica tipica di buona parte della produzione giuliana sull'irredentismo fra le due guerre. La forte carica nazionalista sposata all'enfasi geografica che sembra più smorzata, più vicina al patriottismo nella produzione trentina. La tonalità, assunta da numerosi articoli, opuscoli, volumi, è ascrivibile alla diversità della lotta nazionale sostenuta nei territori del litorale, complicata dalla presenza degli slavi, da conflitti sociali di classe assai limitati nel Trentino. La pubblicistica giuliana, oltre a accentuare i motivi nazionalisti, del resto graditi e sollecitati dal regime fascista, impegnato a strumentalizzare e a travisare in particolare la figura di Cesare Battisti, presentò però anche accenti di minore localismo rispetto a quella trentina, nel tentativo di cogliere l'intreccio dell'irredentismo adriatico con le vicende della politica interna ed estera italiana. Fra tanta produzione, in gran parte priva di rilevanza scientifica, vanno però segnalati, oltre le opere del Salata, almeno per l'apporto informativo, per la documentazione, i lavori di Bruno Coceani sul giornale L'Indipendente, di Silvio Bengo sul Piccolo di Trieste e di Giovanni Quarantotti sulla storia della Dieta del Nessuno. Né può essere dimenticata la pubblicazione del 1937 delle origini dell'irredentismo triestino di Carlo Schifre, anomalo rispetto all'imperante impostazione degli studi che, come osserva Elio Api, non suscitò particolare interesse, né sembra molti ne colsero o discussero il significato di contrapposizione alla storiografia ufficiale. All'interno della produzione nazionale fra le due guerre non mancarono le rievocazioni e le memorie dei protagonisti. Fra i lavori autobiografici vale la pena citare i ricordi di irredentismo, i primordi della Dante Alighieri di Gianfrancesco Guerrazzi, che sfrondati da talune esuberanze retoriche contengono informazioni valide sul reale peso della massoneria nella Dante Alighieri e sul diverso modo di operare dell'irredentismo nel Regno, nel Trentino, nel litorale. Meno attendibile perché limitata a giudizi grossolani di superficie o sconfinanti nell'autocelebrazione e la vigilia di Giovanni Giugliati. Ricordo poi che un capitolo all'irredentismo aveva dedicato il volto in Italia in cammino e riferimenti di notevole interesse si possono trovare nell'opera del Gallabresi, del 22, in quella di Francesco Tommasini sulla politica estera di Tommaso Tittoni. Non molto spazio dato invece all'irredentismo da parte dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. Nel secondo dopoguerra, l'esigenza etica e civile, oltre che scientifica, di giungere ad una revisione critica del passato storico, esigenza che coinvolgeva insieme la storia e la storiografia, portò ad un rinnovamento degli studi e delle metodologie e a sentire come irrinunciabile il momento della verifica attraverso le fonti e i documenti. Anche la geografia nazionalista si stava rapidamente decantando, permettendo la caduta degli steccati posti fra stati e nazioni etichettati un tempo come antagonisti. Solo fra i giuliani era difficile abbandonare la tensione nazionale, dopo la perdita di gran parte dei territori annessi nel 1919-1924, la sorte incerta di Trieste, la sua spaccatura in due e il dilungarsi poi della provvisoria sistemazione. Cociani nel 62 dicendo: guardate che per tutta l'Istria, la Slavia, ormai alle porte di Trieste, dentro la città, bisogna fare il irredentismo anziché scriverlo, questo nel 62. Va però notato che nel 47, quando il confine orientale era al centro di forti tensioni politiche, usciva Roma l'equilibrato e meditato volume di Ernesto Sestan, Venezia Giulia, lineamenti di storia etnica e culturale. Un forte impulso agli studi sull'irredentismo giuliano fu dato dal 29esimo congresso nazionale dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, che tenne a Trieste e a Gorizia il proprio congresso nel 1950. Lo svolgimento dei lavori si ebbe in un clima di fervore patriottico che portava il linguaggio a trasformarsi da storico in politico, con l'augurio di un ritorno all'irredentismo e l'incitamento a fare anziché scrivere la storia del proprio risorgimento. Non mancarono comunque, nelle numerose relazioni, aperture verso nuovi interessi di natura economica, sociale e culturale, e anche qualche presa di distanza, penso alle relazioni Cervani e Gasperini, nei confronti della precedente storiografia nazionalista e di regime. Giova molto allo sviluppo della storiografia l'iniziativa del Comitato di Trieste e Gorizia dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano di dare vita a una collana di saggi e testi sotto il titolo di Civiltà del Risorgimento. In tale collana trovarono posti alcuni importanti lavori di Carlo Schiffre, Giulio Cervari, Salvatore Francesco Romano, Giorgio Negrelli ed altri. Più in sordina avvenne la ripresa degli studi sul passato risorgimentale e redentistico nel Trentino, ad opera del Museo Trentino del Risorgimento e della Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. Trento, nel secondo dopoguerra, non poteva lamentare amputazioni territoriali ai confini della regione, ma doveva misurarsi con la corretta convivenza tra i due gruppi etnici, italiano e tedesco, per evitare la nascita di nuovi irredentismi e di antiche tensioni che non avrebbero certo giovato alla crescita democratica del paese. Per gli storici questo significava superare prospettive di ampio raggio atte a dissolvere qualsiasi regola localistica. Rimaneva intatta invece la propensione al rigore scientifico e documentativo che era stata un vanto degli studiosi trentini fin dall'epoca della loro sudditanza a Gersburgo. Il metodo filologico che veniva studiato nelle università austriache è proprio trentino, dove c'è veramente questa sutura tra un mondo culturale italiano e una metodologia mutuata dalle università tedesche. Fra i lavori usciti nel primo periodo del consolidarsi delle istituzioni di studi storici del Trentino vanno ricordati gli atti del primo convegno storico, con due relazioni sull'irredentismo, poi la pubblicazione di Argisto Bezzi, Irredentismo e Interventismo nelle reti degli amici, e dai carteggi di Pasquale Villari, la società Dante Alighieri e l'attività nazionale del Trentino. Sul piano nazionale, l'irredentismo non fu fatto oggetto di studi specifici, se non in tempi più vicini a noi. Rientrando invece in pubblicazioni dedicate alla generale storia d'Italia o in quella della conflittualità tra gruppi etnici minoritari e nazioni dominanti. La recente storiografia, se non è approdata a una storia dell'irredentismo, ha però posto molte premesse perché essa sia possibile, attraverso, da una parte, il dialogo tra studiosi ormai liberi da pregiudiziali nazionaliste e aperti al dibattito internazionale, e dall'altra, lo sviluppo di ricerche per temi e settori solo all'apparenza limitati, ma fondamentali per cogliere nella loro pienezza tutte le sfumature del radicarsi del sentimento nazionale fino all'elemento di punta dell'irredentismo. Di primaria importanza sono risultati gli incontri italo-austriaci svoltisi nell'ottobre del 1971 a Innsbruck, sul tema dei rapporti tra Italia e Austria dal risorgimento della Prima Guerra Mondiale, che a Trento nel 1977, in collaborazione con l'Istituto Storico Italo-Germanico, che fin dalle sue origini è stato il tramite per durature collaborazioni e sereni confronti fra studiosi dell'area italiana e tedesca. In questi incontri, convegni e seminari, e in altri simili a raggio internazionale, ricordiamo fra di essi il convegno storico giuridico sulle autonomie e sulle minoranze, organizzato a Trento nel 78 dalla Società di Studi Trentini, è stato possibile superare l'angolatura a una sola direzione nella quale si era irrigidita la tradizionale storiografia, per proiettare le questioni apparentemente locali all'interno della storia europea, manifestazioni periferiche di processi e di tensioni che attraversavano tutti gli stati e che condizionavano i generali assetti costituzionali e l'equilibrio internazionale. Un contributo a rimeditare i temi dell'irredentismo è stato dato dalla ristampa del lavoro di Ernesto Sestano sulla Venezia Giulia e lo Schifre sulle origini dell'irredentismo triestino, chiarito nelle sue chiavi interpretative dall'introduzione di Elio Api, dove si sottolinea la capacità dell'autore di cogliere il nodo della storia triestina, spinta dalla cultura verso l'Italia, dall'economia verso l'Austria e dagli appunti alla storia di Trieste di Fabio Cusenga, a considerarsi anch'essi alla luce del saggio introduttivo di Giulio Cervani, a tempo dell'evidenziare i motivi che portarono l'autore a parlare della carenza del concetto di Stato nella borghesia triestina fino ai primi decenni dell'Ottocento e poi allo sviluppo di un concetto di nazionalità particolaristica per sfociare infine nella virata politica verso l'Italia con accettazione del programma ideologico politico del irredentismo. Studiato è stato anche il significato da attribuirsi all'autonomismo triestino. In particolare Giorgio Levelli, sfatando i miti della storiografia nazionalista, osserva come l'autonomia della città-provincia riguadagnata con gli anni 60 trovò concordi tutti i ceti legati agli interessi economici, italiani e austriacanti, tanto da vedere Trieste opporsi alla riforma per l'elezione del Parlamento del 1873 e poi operare l'astensionismo a Vienna, contrariamente al Trentino, che puntava sulla capitale per scavalcare i condizionamenti del conservatore governo di Innsbruck. La difesa del comune era in fondo la difesa della nazione triestina, almeno fino a quando non si avvertì la minaccia del pericolo slavo. Fu allora che l'italianità, da fatto culturale, divenne elemento politico, si sposò all'irredentismo in funzione antislava. E fu usata, dice Negrelli, per mantenere l'egemonia del blocco liberale nazionale borghese, pur permanendo un irredentismo della media borghesia e dei ceti popolari permeato dall'idea democratica. E quindi il redentismo democratico del quale si parlava stamattina e poi sfociò in una organizzazione diversa dalla più grossa organizzazione durante la Prima Guerra Mondiale. La ripubblicazione a Trieste nel 1984 di Redentismo e Adriatico di Angelo Vivante, unito al documentato saggio di Elio Api, e valse a richiamare l'attenzione degli studiosi su alcuni punti nodali della storia del litorale, la presenza slava ed il tessuto economico e sociale della città portuale del suo hinterland, che aveva affermato il Vivante, solo il Cavour aveva saputo valutare in modo realistico. Per questo a Trieste la lotta nazionale si intrecciava con la lotta di classe e spesso restava subordinata alle ragioni economiche dettate dallo sviluppo capitalistico. Il mito separatista, comprensibile in chi coltivava purezza di ideali, non corrispondeva però ai reali interessi presenti e futuri del territorio, per il quale sarebbe stato necessario cercare invece la mediazione fra il regno italiano, slavo e tedesco. L'opera fu salutata da solenni silenzi. Fu segnalata nel Trentino, non da Battisti, dalla Voce Trentina, un giornale nato qui in direzione della Voce di Firenze. Assai utile per precisare il significato della coscienza nazionale degli ambienti triestini nella prima metà dell'Ottocento, il volume La Favilla, pagine scelte della rivista curato da Giorgio Negrelli. Il periodico, infatti, ebbe la funzione di dare un'identità culturale e ideologica ai ceti borghesi che, scavalcato il vecchio gruppo dei patrizi cittadini, si trovavano integrati sul piano degli affari nonostante le origini composite e desiderosi di guadagnarsi il consenso degli strati popolari funzionali a un'economia in espansione, comprese allora le popolazioni slave guardate con simpatia. L'irredentismo è stato fatto oggetto di studio per i suoi rapporti con il movimento nazionalista italiano, soprattutto al momento della Genesi. A questo tema, ad esempio, dedica un saggio Giovanni Sabatucci, che analizza soprattutto le interpretazioni datali dalle riviste legate al nazionalismo letterario e estetizzante e poi l'incontro solo l'apparenza facile fra i due movimenti avvenuto nel congresso di Firenze del 10 e la successiva strumentalizzazione dell'irredentismo in chiave imperialista. Ecco, come integrazione al saggio può essere trovata nel volume Trieste la voce di Giorgio Baroni, per comprendere il peso avuto dall'irredentismo nel dibattito politico-culturale svolto in età giuliana e la rilevanza che esso ebbe negli ambienti della rivista di Prezzolini. Dicevo prima che nel Trentino ci fu una voce trentina per 12 numeri fondata da De Gasperi al Cile, il figlio De Gasperi che poi divenne fascista e del pittore Tullio Carvalho. Questa rivista il prossimo anno sarà ripubblicata in anastatica. Molto interessante perché su questa rivista si fece un'analisi dei problemi delle minoranze nazionali in Europa in senso democratico. Garbari poi fuoriuscito si iscrisse alla Democrazia Sociale Credente, uno dei pochi trentini, volendo salvaguardare i diritti di tutte le nazionalità. Durante l'ultimo anno del conflitto, perché la Democrazia Sociale Credente nasce proprio nell'ultimo anno del conflitto. Ne va dimenticato il ruolo svolto da Scipio Sigere di origini trentine, primo anello di congiunzione tra l'irredentismo e gli uomini del nazionalismo, congiunzione che avvenne spesso quindi nella sua casa di Nago, dove erano Corradini, dove venivano De Frenzi e tutti gli altri amici nazionalisti. Però il Sigere è anche pronto ad allontanarsi dal movimento quando fu chiaro il suo volto antidemocratico. Al Sigere, al posto che diede nell'ambito dell'irredentismo e della difesa dell'italianità dei territori ancora in mano di Asburgo e i suoi rapporti con il nazionalismo, abbiamo dedicato molte pagine all'interno dei nostri lavori, facendo spesso uso di materiali inediti di una passata famiglia. Un posto a parte hanno le pubblicazioni, alcune delle quali di rilevanza scientifica, dedicate ai programmi e all'azione degli irredentisti durante la Prima Guerra Mondiale, nel periodo della neutralità e poi dell'intervento italiano a fianco delle potenze d'intesa. In essi si precisa il maggiore attivismo giuliano, dove la questione slava rimane sempre un elemento di punta nelle richieste fatte agli organi di governo e nelle pressioni sull'opinione pubblica. Il più moderato agire di Trentino, prevalentemente rivolti ai progetti futuri di sistemazione economica, politica e amministrativa della loro terra e dall'assistenza ai fuoriusciti e ai profughi. Di questa pubblicistica, che è abbastanza notevole adesso, tuttavia non faremo menzione perché è relativo a un periodo e a un contesto internazionale nel quale si ritiene ormai certo il passaggio all'Italia di territori rivendicati. E il problema riguarda prima, durante il periodo della neutralità, la loro completezza. E poi, quando è chiara la dissoluzione della duplice monarchia, l'estensione della linea di confine dettata o da considerazioni etniche, nazionali, o da considerazioni di sicurezza e di potenza imperialistica. Con la caduta dei pregiudizi e delle discriminanti nazionaliste, anche la figura di Cesare Battisti, come irredentista e come socialista, veniva finalmente strappata dalla retorica e dalle strumentalizzazioni. Servì a questo la ripubblicazione degli scritti politici e sociali e dell'epistolario, accompagnati da degli studi, ma un peso rilevante ed è pure il convegno tenuto a Trento nel 1977, nel quale la relazione di Ernesto Sestani, Cesare Battisti, tra socialismo e irredentismo, rimane un punto obbligato per la storiografia. Con la sua penetrante analisi dei motivi ideali e politici che portarono i Battisti, partito da matrici risorgimentali, a proclamarsi irredentista e interventista, senza in nulla abdicare alla coerenza di socialista. Nel medesimo convegno veniva sollevata l'intera questione della posizione del socialismo austriaco di fronte ai conflitti nazionali e del diverso atteggiarsi del socialismo trentino e triestino. I contributi dati in questa occasione da Leo Guagliani, Arduino Agnelli e Elio Api possono ormai considerarsi la base fondamentale per gli studi successivi. Nell'ambito degli storici facenti capo alla Società di Studi Trentini è stata chiarita la posizione assunta dal movimento cattolico nei confronti della difesa nazionale e dell'irredentismo. Questione molto pesata, ne parlerà poi dettagliatamente il professor Berrenti. Di primaria importanza in questo senso è il lavoro di Umberto Corsini, il colloquio De Gasperi Sonnino, i cattolici trentini e la questione nazionale, e quelli dedicati agli indirizzi politici della Chiesa trentina di Sergio Benvenuti. Il clericalismo trentino, conservatore, eligio l'autorità costituita, non fu mai irredentista, ma non avverso a difendere i caratteri italiani della popolazione attraverso la soluzione istituzionale dell'autonomia e a favorire, per mezzo della cooperazione, lo sviluppo economico della provincia. Un'accentuazione della sensibilità nazionale per i cattolici si ebbe come risposta all'attività delle associazioni pangermaniste, sospettate di essere l'avanguardia del luteranesimo. Fu allora che l'affermazione dell'italianità assunse il significato di fedeltà ai valori del cattolicesimo e della Chiesa romana e, con il vescovo Celestino Ricci, anche di resistenza al giosefinismo viennese e di difesa della sfera spirituale nei confronti di quella politica. Pur tenendo presenti le varie gradazioni della sensibilità nazionale dei cattolici, più o meno accentuate nelle diverse personalità, non rientrò mai nei loro programmi la soluzione territoriale della questione trentina, se non all'atto della dissoluzione della duplice monarchia attraverso le dichiarazioni al Parlamento austriaco dell'onorevole Conci. Altri importanti contributi per la storia dell'irredentismo vanno individuati nei lavori di Angelo Ara, fra i quali spicca quello concernente la questione dell'università italiana in Austria. Ma vanno tenute presenti anche le fine osservazioni contenute nel volume Trieste, un'identità di frontiera, dove, attraverso le parole di Slater, si evidenzia la doppia anima di Trieste, dilacerata fra Austria e Italia, spiritualmente italiana, economicamente austriaca, e la ricerca di una propria identità tale da superare il dramma del suo duplice modo di essere. Problema questo che non tocca prima. Queste osservazioni sono sviluppate dall'Ara in Ernesto Sestan tra Venti e Slavi, e infine nella relazione tenuta a Trento nella giornata in ricordo di Ernesto Sestan del novembre 90, Ernesto Sestan, storico di frontiera. In essa si specifica il carattere conflittuale assunto dalla convivenza nelle zone dove il rapporto fra nazioni non è risolto da confini etnico-linguistici, dove vi è dissociazione tra struttura politica e caratteri della lingua e dove la nazionalità può essere un fatto di nascita, ma anche di scelta volontaria. È questo un richiamo a riflettere sulle risonanze psicologiche e culturali di chi vive in una situazione di doppia appartenenza nazionale e politica e quindi di una doppia realtà. Sullo scontro culturale nelle zone di confine si è scritto molto nel passato, ma anche nel presente, guardando adesso con obiettività alle contese linguistiche e toponomastiche. Quelle contese che, sotto l'aspetto del discorso scientifico, o preso in totale, erano indirizzate all'accaparramento politico di aree territoriali. Nuovi elementi conoscitivi sono stati aggiunti all'attività delle associazioni che, sulle proposte fronti, operavano per il rafforzamento della nazionalità italiana e tedesca, In riferimento a queste ultime vanno segnalati i lavori recenti di Davide Zaffi. Vicario Nuovo è in sintonia con gli studi che indagano sui processi di nazionalizzazione delle masse del saggio di Ennio Maserati, Simbolismo e rituale dell'irredentismo adriatico. L'autore ricorda l'intensa opera di promozione culturale, ideologica, destinata ad avere successo per il forte bisogno di riconoscimento della propria identità. La difesa dell'italianità avvenne con il ricorso a miti, simboli, immagini, rituali liturgici e si servì di associazioni varie, alpinistiche, ginnastiche, eccetera. La celebrazione nel 1991 del centenario della Lega Nazionale è stata occasione a Trieste per sollecitare tra gli altri lo studio sull'utilizzo del mito e dell'immagine ad opera della Lega, che aveva affidato ad una fioritura di cartoline, alcune delle quali dovute a artisti destinati a chiara fama nel mondo dell'arte, il compito di imprimere e moltiplicare con la loro circolazione il messaggio patriottico. Ecco, simili studi non sono stati fatti per il Trentino, dove pure avevano significato l'immagine, il rito, il simbolo. I recenti lavori, in mia conclusione, dedicati in tutto o in parte all'irredentismo, ai quali si è fatto brevemente cenno, arricchiscono da angolature diverse il quadro d'insieme e pongono in evidenza elementi e zone rimaste ancora in ombra. Perché, come si è detto, l'irredentismo nel senso corretto del termine è un fenomeno assai circoscritto, ma che poi penetra e scorre sotto le diverse forme assunte dalla lotta nazionale, fino a spegnersi e identificarsi con le rivendicazioni istituzionali e culturali quando altre richieste non siano possibili. La complessità del configurarsi dell'irredentismo e l'oscillazione assunte anche in uomini che idealmente avevano sposato il programma di massima, ma sapevano guardare con penetrante realismo all'intero quadro internazionale europeo, dovrebbe essere riconsiderata attraverso il pensiero e l'opera di alcune personalità altamente significative per caratterizzare i percorsi sui quali si sviluppò la difesa nazionale. In questa prospettiva sono esemplari le figure di Giovanni Aprato e di Vittorio Belcavona, impegnati, il primo, l'Aprato, nelle riforme liberali e sociali, nelle costituenti di Francoforte, Vienna Kreisler e poi nel Parlamento viennese, e il secondo nelle trasformazioni costituzionali in senso liberale della duplice monarchia, persuasi entrambi che l'ammodernamento del centro fosse la chiave rivolta per la soluzione dei problemi della periferia, quasi anteponendo il senso dello Stato e della libertà a quello della nazione. Osservazioni simili possono essere fatte per l'irredentista Scipio Salvotti, amico degli Imbriani, figlio del giudice e consigliere imperiale Antonio Salvotti, l'inquisitore dei processi del 21, che prima di sposare la tesi dell'Ansia Verenda, in un opuscolo del 1873, riteneva conforme all'interesse dell'Italia e dell'Europa liberale il consolidamento della monarchia svolgica, asse portante della vita d'Europa, attraverso però il potenziamento delle autonomie nazionali. E lo stesso Scipio Sigre, considerato dai contemporanei campione del irredentismo, negli scritti e in pubbliche dichiarazioni precisava di non chiedere né la denuncia della triplice né la guerra all'Austria, che risultavano impensabili guardando al contesto internazionale, ma solo di rafforzare i caratteri nazionali dei territori italiani conglobati nello Stato svolgico attraverso l'autonomia e il sostegno delle associazioni patriottiche. Molti, come si è visto, sono stati gli apporti recenti alla storiografia sull'irredentismo. Una storia dell'irredentismo, alla luce della stessa definizione del termine, non può comunque essere avviata se non ponendo l'accento sulla dimensione internazionale del fenomeno, per il quale è più corretto parlare di irredentismi, tenendo presenti tutti i focolai di tensione nazionale accesi nelle comunità minoritarie, separate dai confini politici, dagli stati connazionali a cavallo tra i due secoli. In questa visione è comprensibile come un conflitto, per quanto locale, potesse mettere in moto un processo destabilizzante per l'intero equilibrio europeo. E trova giustificazione l'interesse dimostrato dalla diplomazia internazionale per le manifestazioni interventistiche, anche se l'apparenza circoscritte o di rilevanza marginale. Fu quindi il quadro internazionale a porre le premesse per la nascita dell'irredentismo e a condizionare in buona parte le sue manifestazioni, i ritiramenti, gli accorgimenti tattici, il campo delle alleanze. Tutto il resto, per quanto significativo e di doverosa attenzione ai topi storici, si aggiunge, ma non può sostituire il riferimento alla globale politica europea. Io spero di non essere non è parato solo quasi di volta. Prima di proporre una decina di minuti di pausa, voglio anzitutto ringraziare la relatrice per questo panorama così ampio, esaustivo, equilibrato che ha dato di un direi settore non facile della storiografia italiana, e ha ricostruito anche questo progressivo processo con il quale la storiografia sull'irredentismo ha saputo, in un certo senso anche, certo non totalmente, superare alcuni condizionamenti che sono stati presenti a lungo. Ricordo una osservazione di Sistan che mi pare molto pregnante: la storiografia ha continuato a combattere quelle battaglie nazionali che in un certo senso erano finite o sembravano finite nel 1918 e ha continuato a portare avanti molto spesso tematiche vecchie dopo il 15 e dopo il 45, quindi questo ha reso proprio particolarmente difficile questo processo di superamento. E poi l'altra cosa, e penso anche a diverse osservazioni che sono state fatte in queste relazioni, la storiografia sull'irredentismo ha avuto inevitabilmente la tentazione, proprio perché ha preso in considerazione solo uno degli aspetti della storia delle terre irredente, di pretendere e di ricostruire attraverso una ricostruzione che per forza di cose era solo parziale, perché prendeva in considerazione solo uno degli aspetti delle vicende storiche di questa terra, il processo invece completo, il processo storico completo, che è naturalmente molto più complesso. Quindi questo ha portato anche per lungo tempo, e potrà essere uno dei temi che discuteremo in questi giorni, ad una amputazione per quanto riguarda la Venezia Giulia, il Trentino, di tutta una parte della loro storia, della quale forse solo adesso si comincia di nuovo a discutere. Vorrei fare un solo piccolo esempio, ricollegandomi anche a quello che dicevo questa mattina, per esempio la grande importanza storico-culturale che il cattolicesimo politico poliziano ha avuto, sia pure nella storia di questa piccola terra di confine fra Italia, Slavia e area tedesca. Questa è stata una realtà che è stata veramente completamente amputata e che solo piano piano adesso ritorna a galla e viene presa in considerazione. E appunto questo mi pare, per concludere, importante ricordare, ridare, così come ha fatto la relatrice, alla storia, alla storiografia sull'irredentismo il posto che le compete, nello stesso tempo senza pensare di esaurire con questo la storia, che è inevitabilmente molto più complessa di queste zone. Sono Giorgio delle Donne di Bolzano, volevo approfittare dell'occasione per comunicare che il gruppo di ricerca storica regionale, un gruppo interetnico che si costituisce a Bolzano da un paio d'anni, ha organizzato per la fine di novembre, mi sembra che sia il 25 o 26, comunque lo rivesto un venerdì, una conferenza di George Mostra che si trova in Italia proprio in quel periodo e ha accettato il nostro invito a una conferenza a Bolzano proprio su queste tematiche, quindi la nascita del nazionalismo, la nazionalizzazione delle masse, cose di questo tipo. Quindi quando avremo la conferma di questa conferenza andremo al professor Cogenanico un avviso. Noi abbiamo organizzato questa cosa perché pensiamo che l'ottica storiografica nella quale si sono mossi e Volkswagen sia molto interessante proprio per uscire da questa logica controversistica che molto spesso ha analizzato anche la storia del dopo questa breve comunicazione vorrei così ricordare che l'iniziativa, che ovviamente non doveva essere citata nella relazione della professoressa Carvali perché non era un'iniziativa proprio diretta, un'iniziativa editoriale, culturale, relativa al redentismo, perché è un'iniziativa anomala. Ecco, mi riferisco all'iniziativa di Credaro, il commissario generale civile della Venezia Fiorentina, che a un certo punto nel 21, se non sbaglio, decide di promuovere la traduzione e la pubblicazione del libro di von Grabmaier intitolato in italiano La passione del tirolo innanzi alla missione. È un'iniziativa molto interessante, Credaro che è la massima autorità politica statale in questo territorio, questa Venezia fiorentina che non era ancora ben definita, ecco, ci sono anche proprio delle ricerche di Menestrino sulla definizione di questo territorio, e qui possiamo rilanciarci al discorso di questa mattina di quanto ci fosse, che consapevolezza ci fosse nel centro politico italiano per quanto riguarda questi territori, no? Ecco, non solo non sapevano dove passava il confine linguistico, ma a un certo punto, ottenuto la missione di questo territorio, per un certo periodo sono rimasti anche in dubbio su come definirlo, no? Cioè, definito Venezia Trentina, Alto Trentino, Alto Adige, qualcosa di questo. Credaro, la massima autorità dell'epoca, si era formato culturalmente in Germania, era perfettamente bilingue, stimava moltissimo la cultura germanica, la cultura tedesca, e a un certo punto si fa promotore della pubblicazione da parte dell'editore Ballardi di questo libro di Grabmaier, che contiene dei saggi molto interessanti, cioè sono tutti saggi tendenti a dimostrare, diciamo così, la tedeschità del territorio, diciamo così, fino a Salorno, ecco. Fino a pochi anni prima, molti di questi lo dedicavano fino a Borghetto, comunque sono accessibili a Salorno. E molti di questi saggi sono molto interessanti, altri chiaramente risentono del clima dell'epoca. E contemporaneamente Credaro però si fa promotore verso la Società di Studi Trentini di Scienze Storiche, che si era recentemente costituita, di una contropubblicazione che poi viene pubblicata col titolo dell'Alto Adige, della Verità dell'Italia. Esatto, che è una cosa, diciamo così, molto spesso uguale e contraria, no? Che è una caratteristica abbastanza comune molto spesso poi di chi degli intellettuali che si sono mossi sul terreno delle quindi è un'iniziativa un po' anomala perché è un uomo politico che ce l'ha a fare per pubblicare le linee dell'avversario. Posso? Dunque sì, è un'iniziativa molto interessante e devo aggiungere una cosa, che questa iniziativa dell'onorevole Credaro, uomo quanto mai equilibrato, e non era soltanto un'iniziativa isolata, ne aveva parlato il Credaro anche con il Salata, che allora era capo dell'ufficio per le nuove province, e addirittura la notizia era stata conosciuta e approvata anche da Giulitti. Perciò non è soltanto un'iniziativa isolata. Il desiderio di quest'uomo è far conoscere l'opinione pubblica come quelli che ormai sono cittadini di lingua italiana e di lingua tedesca vivano la dilacerazione della divisione con il terreno tedesco, perché è innegabile, c'è la dilacerazione. Questo è inevitabile, sono delle popolazioni etnicamente, linguisticamente, spiritualmente austro-tedesche portate in territorio italiano. E proprio per serena obiettività, Credaro vuol far sapere come viene vissuta questa visione, anche nelle forme esorbitanti a volte e pesantemente aggressive, o anche nelle forme più morbide. Tra parentesi, il Grabmaier non sarebbe spiaciuto al Credaro come senatore della Repubblica Italiana. Ho visto dei carteggi molto interessanti. La cosa non si fece. Come senatore, fra quelli proposti, attraverso la contessa Guerrieri di Gonzaga, si poteva prospettare anche la possibilità di fare un senatore. No. E poi appunto questo libro desta uno scalpore enorme, attacchi a Credaro, quel povero Credaro che era inviso a tutti, inviso ai tedeschi perché considerato troppo italiano, inviso dai nazionalisti, dai combattenti italiani perché considerato troppo morbido come i tedeschi, odiato dai clericali perché laico liberale, e odiato anche dai liberali perché considerato troppo al di sopra dei parti, perciò si attirò gli odi di tutti, quest'uomo veramente saggio, saggio. Ecco, e allora la Società di Studi Tridentini in questo modo mette in moto la sua prima pubblicazione, la prima pubblicazione della Società, e viene stampata sempre a Milano da Vallardi, dove abbiamo, devo dire il vero, alcuni articoli altrettanto aggressivi dal punto di vista nazionale. Però si conclude con quel meraviglioso lavoro di Vittorio De Rica Boda, che riconosce: i tedeschi sono diventati in minoranza in uno Stato italiano, non facciamo a loro i torti che l'Austria ha fatto a noi, diamogli autonomia, diamogliela, perché è meglio avere una popolazione soddisfatta ai confini d'Italia piuttosto, e qui cito solo lo scritto di Cabola, che l'amalgama ai confini di due popolazioni diverse che creerebbero soltanto una zona bastarda e fonte di credentismi. Diamogli piena autonomia. È molto bello questo articolo, molto sereno. Poi ripeto, ci sono anche le pagine e le mie pensate prima del 31 aggressive. E comunque è molto interessante per vedere come il problema di irredentismo è vissuto nei primissimi anni del primo dopoguerra. E questa volontà di credere, di questa serenità di giudizio, prima conosciamo, poi giudichiamo. Per cui mi piace che l'abbia ricordato. Volevo dire, proprio riagganciandomi a quest'ultimo discorso, che il quadrante del litorale offre una visione completamente diversa, perché se qua abbiamo un discorso aperturista, visto che stiamo parlando del primo dopoguerra, di studio della situazione per poi intervenire, nel litorale questo non avviene, perché il pregiudizio verso questo nuovo irredentismo che si viene a creare immediatamente, perché col confine abbiamo una porzione di sloveni croati enormi, intorno a centinaia di migliaia, che vengono a entrare nel regno, diventano immediatamente, finisce un irredentismo italiano, nasce un irredentismo slavo. E non c'è però nelle autorità di Trieste, da Mosconi in poi, non c'è questa apertura, questa, diciamo, attenzione a valutare la situazione comportata. Perché, a mio modo di vedere, c'è un problema di fondo che, si ricorda come diceva il professor Rara stamattina, tra culture diverse, mentre in Alsazia-Lorena, in Trentino, abbiamo un confronto tra culture della stessa, diciamo, portata, della stessa tradizione, di nozioni storiche, con il mondo slavo questo non è vissuto in questi termini, non lo è neanche oggettivamente, sia che siano nazioni senza storia o con una storia culturale particolare che è data più recentemente. E questo è il nodo cruciale che porta a non vivere la frontiera come ponte verso il mondo slavo, ma piuttosto come, io la vedo piuttosto come una negazione, come una alterità, come una differenziazione sempre ribadita e mai vissuta consapevolmente nel disegno di incontrarsi e confrontarsi e vivere consapevolmente questa diversità. L'unico che lo faccia, a mio modo di vedere, è Vivante, che l'ha citato, rispetto a tutta quella produzione storiografica dei vari Salata, Tramara, Alberti e compagnia, che appunto, oltre a non avere un grosso valore storiografico in sé, servono quasi più a farci capire cosa sia stato l'irredentismo vissuto da questi protagonisti. Quindi la loro storiografia è quasi una storia dei vincitori che riscrivono la propria storia, vincitori temporanei, tra l'altro, come sappiamo. Ed è una storia che parte da lontano, perché Salata, già alla fine dell'Ottocento, ancora studente in legge, partecipa, elabora un testo molto interessante su problemi ecclesiastici, sulla latinità della diocesi di Ossola, una vecchia diocesi che c'era già nel litorale, appunto a ribadire le proprie radici culturali latine e quindi italiane, non slave, nel contesto della lotta culturale che si vive allora. Questo per dire che per questi autori che riscrivono in qualche modo la propria storia, c'è questa chiarissima tendenza autoapologetica in qualche modo rispetto a ciò che hanno fatto e soprattutto rispetto alle posizioni loro sostenute, di questa italianità, prima ancora latinità di queste terre che finalmente rientrano nel nesso statale. Il cambiamento avverrà appunto con Scifre, che non a caso allievo di Salvemini, e soprattutto in sé stanze di storici, ma che anche loro in fondo per certi versi scrivono sotto un'urgenza particolare, che è un'urgenza politica del secondo dopoguerra, quando di nuovo la contestazione di queste terre diventa un problema obbligato su cui gli intellettuali si confrontano e producono, ma anche necessariamente con qualche tendenziosità, così come era stata tendenziosa la storiografia di Salata, Tamaro e compagnia. L'unico mi sembra che esca da questi schemi è Vivante, socialista italiano, che scrive un libro tra l'11 e il 12, che ho riletto prima di venire qua, e che a 80 anni di distanza mantiene ancora una lucidità e uno spessore, a mio avviso, formidabile, soprattutto come apertura mentale rispetto ai problemi, che non è approccio pregiudiziale, ma è fare proprio i conti onestamente con la propria realtà, con la storia, con il proprio sviluppo futuro, soprattutto, su quale deve essere il confronto, quale deve essere l'approccio verso il mondo slavo che nessun altro autore propone. Quindi il discorso del ponte nel litorale è difficile, c'è un'italianità ribadita, ma non c'è questo discorso di apertura o di confronto. E non a caso la professoressa ribadiva come tra il patriottismo trientino e il nazionalismo giuliano ci sia una differenza di tono formidabile, ma che nasce, credo, in questo contesto. L'ultima cosa che volevo dire era appunto quel richiamo, mi sembrava molto appropriato, rispetto ai terreni di studio possibili, ovvero andare a studiare mentalità, simbolismi, i reticoli associativi che diventano strumenti di aggregazione politica e sociale, che appunto credo sia questo un po', uscendo dagli schemi classici, un terreno veramente, non per essere alla pace delle tendenze storiografiche, ma proprio perché è, diciamo, un terreno interessante. Ovvio che io condivido molte cose dette, tra cui anche l'entusiasmo per l'opera di Angelo Vivante, che è veramente un'opera stupenda. Ecco, così a titolo di curiosità, non mi ricordo se ne ho accennato, ecco, quel lavoro fu annunciato dalla Voce a Firenze e Vivante volle inviarlo anche Cesare Battisti, il quale però non ne fece parola, mentre l'avviso come sulla Voce di Firenze appare sulla Voce trentina, quel giornaletto che aveva intenzione di pubblicare il prossimo anno. Ecco, poi un'altra cosa, è vero, la conflittualità nel Trentino non fu pari a quella esistente a Trieste per condizioni etniche, economiche e sociali diversissime. Scipio Slatta, per proprio scrivendo sulla Voce trentina nel primo numero, in un bellissimo articolo, Trento e Trieste, dice: guardate che la differenza tra le due città è maggiore della differenza chilometrica geografica che le separa, anche se nella retorica italiana sono unite da un ponte. Ecco, e questo scriveva nell'11-12. Però conflittualità ci furono evidentemente anche nel Trentino. Penso per esempio a tutte quelle contese linguistiche e toponomastiche fra 800 e 900 che diedero luogo a una marea di scritti contrapposti con teorie scientifiche e pseudoscientifiche, direi però abbastanza moderate tutto sommato. E poi, ecco, qui devo però rilevare una cosa, tanto per liberarci da certe responsabilità, noi qui abbiamo il caso Tolomei ed è l'archivio per l'Alto Adige, Tolomei di origine trentina, però il suo archivio per l'Alto Adige, che viene pubblicato a Gleno, riconosce collaboratori trentini, io penso per esempio a un Pedrocchio, a un Battisti ed altri, però devo dire la verità che gli articoli scritti da trentini su quella rivista sono articoli scientifici, non sono articoli a carica nazionalista, anche se evidentemente nel Trentino il sentimento nazionale è fortissimo. direi che Tolomei non rispecchia gli ambienti trentini, non li rispecchia nelle tradizionali associazioni precedenti la prima guerra mondiale del Trentino e nelle famose riviste trentine, penso a Archivio Trentino, penso a Tridentum, penso a San Marco e penso all'Archivio Storico per Trieste, Istria e Trentino, riviste veramente valide, penso agli atti della Carriera dei Ghiacciati, riviste veramente valide dal punto di vista scientifico, Tolomei non compare. Non l'ho letto nella mia relazione, però l'ho notato. Lo stesso Gioacchino Volpe, che arriva alla testa dello storico, a un certo punto nella sua opera dice: uno solo rivendicava e combatteva per l'Alto Adige. Naturalmente lo dice per dare gloria a Tolomei, non i trentini, che non sapevano guardare al di là del confine linguistico. Per cui indirettamente Gioacchino Volpe tesse veramente le lodi dei trentini, fra i quali anche durante la guerra vi furono i sanornisti, quelli che non accettarono il confine a prenderlo. Questo però non toglie che conflittualità non ci fosse. Ma vorrei accennare a un altro discorso che si allaccia al suo, ma si allaccia anche al professor Ara questa mattina. La cultura trentina credo che debba essere ulteriormente studiata, perché in parte, nonostante tanto parlare di italianità, è veramente una cultura di cerniera più che di opposizione. Anche se dal punto di vista letterario non è una grande cultura, però se io penso ai traduttori trentini che conoscono perfettamente il tedesco, e sanno tradurre le opere, penso a Ferrari, Oreste Ferrari, le traduzioni di Goethe, o di, anche di letterati francesi, ma le traduzioni del tedesco, penso a tutti quegli uomini trentini che, perché proprio hanno avuto una preparazione nell'area culturale tedesca, metodo filologico, metodo analitico, precisione, sono chiamati in Italia come archivisti, come bibliotecari, come insegnanti, ce ne sono moltissimi, come traduttori. E qui, nonostante la loro asserita italianità, è certo che una matrice, una forma mentis, un modo di procedere nella ricerca storiografica e nella ricerca erudita dà i suoi effetti. Da. Non solo, io tante volte mi domando il perché ci dice un fenomeno nel Trentino a cavallo fra 800 e 900, quel fenomeno che su alcuni articoli riguardanti soprattutto la storia dell'arte è stato chiamato il miracolo della splendida Rovereto. Rovereto che a un certo punto dà una scuola. Allora Albert, Gerola, Orsi, non solo, ma dall'insegnamento della scuola reale di Rovereto, fatta da docenti, con formazione culturale e filologica austriaca, esce una serie di pittori che poi avranno una rinomanza sul piano europeo, magari combattendo di proprio, penso a un De Piero, ma da lì dico, esce Mogioni, escono Gigio Pizzannini, esce tutta una serie di persone. Un fenomeno che conosco abbastanza chiaramente perché da questa scuola è uscito mio zio Giulio Carvalho, il pittore, no? È uscito, che poi si è spostato con le avanguardie italiane e le avanguardie francesi, dove è morto poi a Parigi nel 31. Perché questo? Perché questa fioritura? Architetti, no, musicisti, come mai? Come mai? Il Trentino, questo piccolo territorio di provincia chiuso senza un'università, dà luogo fra 800 e 900 a questa fioritura intellettuale. Qui per me ci devono andarsi perché? Qui penso che non esisteva il problema di Trieste della ricerca di una propria identità. Qui erano italiani, lo erano. Sicuramente l'italianità non era una scelta, però contemporaneamente potevano fruire delle strutture, delle metodologie imparate nelle scuole austro-tedesche. Mi pare che questo possa verificare più una specie di cementazione di metodi e mentalità che non opposizione, nonostante poi a parole lo scontro ci fosse sui giornali, per carità, insomma, ma questa forse era una cosa più superficiale. Del resto, in molti articoli di storici apparsi sulle riviste, Quante volte ho trovato niente da dire sulla serietà della metodologia storiografica tedesca? Anche nel dopoguerra. Penso a Zucchelli, il suo articolo famoso, quando fa l'esame delle riviste del Trentino precedenti la guerra, che gli dice: tanto di cappello alla storiografia tedesca, ai suoi metodi. E vengono recensite anche opere tedesche, accettate o non accettate a seconda della serietà della documentazione. Ecco, questo per dire che ci sarebbe molto ancora da verificare proprio dal punto di vista culturale e di certi anche drammi psicologici che Trieste ha vissuto, ma non Trento, nonostante, ripeto, i conflitti che esistevano sui giornali in opuscoli, però penso che il clima fosse diverso. Cioè, c'è tutto un discorso nuovo di serietà. Approfitto un secondo io mentre nascono nuove domande. Ecco, questo mi pare un tema molto importante che si potrà casomai sviluppare, questo delle reciproche influenze culturali e in maniera particolare di quanto della cultura tedesca sia stato, della cultura delle università austro-tedesche sia stato assorbito nel Trentino ma anche nel litorale adriatico. Questa particolare tipo di formazione sul quale ho insistito, in maniera particolare che io sappia, uno storico della medicina di Trieste, Premuda, che si è in maniera particolare occupato di questi temi, il metodo che in fondo accomuna quasi sia gli studi naturalistici che gli studi scientifici che gli studi storico-filologici, e che partono proprio da un attento esame del dato di fatto, che in un caso è il dato filosofico, nel dato filologico, nell'altro caso invece è la ricerca di tipo empirico-naturalistico, e questo ha indubbiamente lasciato delle tracce profonde nella formazione di più generazioni di studiosi di scienze naturali e di medici da una parte e di filologi diversamente anche orientati, o di storici antichi o di archeologi dall'altra parte, e poi la straordinaria importanza, e questo forse può essere anche un punto di contatto con l'Alsazia e Lorena, degli studi linguistici in aree di confine, in aree cioè in cui le lingue sentite sono di più, e quindi proprio anche lo stimolo a riflettere sui problemi linguistici diventa più forte. Nel litorale adriatico si formano filologi come Mussafi, come grazie a Dio Isaia Ascoli, e poi in generazioni più giovani Matteo Bartoli, per quanto si possa discutere da certi punti di vista la sua posizione politica successiva, Carlo Battisti, che è privato docente a Vienna, che poi in fondo diventerà da certi punti di vista nazionalista italiano, ecco, anche questo è un fenomeno di straordinaria importanza, così come d'altra parte moltissimi dei germanisti francesi, anche delle generazioni più giovani, sono alsaziani. Anche qui non so esattamente, è una frase che mi è rimasta nell'orecchio, non saprei dire più di chi sia stata, ma è un francese che ha detto: l'Alsace, se non tra il Magno, considerare proprio questa provincia come un ponte attraverso il quale la cultura francese e la cultura tedesca penetrava in Francia. E ancora adesso germanisti come Boer o Bauer, come vogliamo dire, che hanno svolto la loro opera al di qua e al di là del confine, sia in università francesi che in università tedesca. Ecco, anche questo mi pare un tema veramente di straordinaria importanza e di grande suggestione. Diciamo di questo filato, l'ambasciatore romano. Il problema è questo vestito. Ma forse sarebbe di voler rispondere? No, io volevo fare cose considerate. distinzione tra patriottismo fiorentino e patriottismo giuliano, anche sulla base delle cose che sono state dette. A me sembra non difficile riscontrare una forte differenza tra i due fenomeni. Nel Trentino noi siamo di fronte a una provincia italiana in cui gli italiani sono le città, italiano è il contado, e quindi non c'è tensione tra campagna e città. Vi è un certo equilibrio, una certa armonia, sono legati dalla stessa fede religiosa, dalla stessa lingua, hanno avuto grosso modo lo stesso artefatto storico e culturale. Per di più siamo anche in una regione o una provincia abbastanza periferica, dove le cose non ne accadono in molte, nella seconda metà dell'Ottocento e prima della Grande Guerra. Sì, c'è un fenomeno di espansione di pangermanesimo che risveglia fenomeni di identità nazionale religiosa, il vescovo di Lici, eccetera, ma grosso modo questa è una città in cui le cose non ne accadono moltissime. Invece a Trieste ne accadono molte di cose. Anzitutto, Trieste non è una città italiana, è una città di cultura italiana, che ha una comunità italiana, che ha una lingua di comunicazione italiana, ma non ha una particolare, storicamente, identità con uno Stato italiano. L'unico Stato italiano con cui avrebbe potuto avere una certa identità o affinità politico-culturale è Venezia, ma con Venezia mi sembra di capire che i triestini hanno sempre avuto piuttosto punti di dissenso che non punti di contatto. Quindi Trieste va benissimo, vive perfettamente all'interno di un impero austro-ungarico per cui ha anche dato uno spazio e una dimensione economica molto gratificanti, e svolge perfettamente la sua funzione perpetuando la propria borghesia di generazione in generazione attraverso un processo ben riuscito di assimilazione di estranei che arrivano nella città. I greci, gli ebrei, gli slavi arrivano a Trieste e vengono abbastanza facilmente nazionalizzati, la città ha il suo potere di attrazione. I guai cominciano con la seconda metà del secolo scorso, quando abbiamo una forte espansione demografica slava, molto forte, in tutto analogo, questo dovrebbe interessare a lei, al fenomeno ebraico. Anche l'ebraismo è un fenomeno di esplosione demografica nella seconda metà del secolo scorso, sproporzionato rispetto alle dimensioni della popolazione ebraica. Quindi abbiamo fenomeni nuovi, un contado sloveno, quindi un contado disarmonico rispetto alla città. Poi questo contado arriva alle porte della città, la città non riesce più a nazionalizzare, non ce la fa più. Al di là di un certo tasso quantitativo, non c'è niente da fare, non si nazionalizza. C'è una proporzione del tasso di nazionalizzazione. 10 persone ne nazionalizzano 2, 10 persone non nazionalizzano 10 persone, non c'è niente da fare. E questo è anche fondamentale. Per di più, nel frattempo, altre cose accadono che mettono in moto un meccanismo di frustrazione all'interno della città di Trieste. L'impero sta cambiando. L'impero ha capito che così non può sopravvivere. Fa molta fatica a trovare una nuova formula, ma qualcuno ci sta pur pensando a questa nuova formula. E guarda caso, la formula nuova che sta prendendo corpo all'interno dell'impero, Dio sa se qualcuno l'avrebbe mai realizzata, non ne sono sicuro, è quella della triplice monarchia, cioè una terza corona, una corona slava. Ora, ecco che questo finirebbe per ridurre l'elemento italiano della monarchia in condizioni di ancora maggiore emarginazione, lo renderebbe ancora più periferico. E questo a me sembra la radice della diversità triestina rispetto a Trento. È a Trieste che si mettono in moto tutti questi meccanismi di turbativa di un equilibrio antico. Trento no, o relativamente parlando no. Ecco, credo che questo sia la chiave forse per le due, contrario della differenza tra le due città. Ma la diagnosi è assolutamente esatta. È la diagnosi che già in un memorandum sull'irredentismo faceva l'ambasciatore inglese mandandolo a Londra, la diversità radicale tra Trento e Trieste. Trento è compattamente italiano, compattamente. Ha mantenuto la sua nazionalità perché l'insegnamento elementare è in lingua italiana, l'insegnamento religioso è in lingua italiana, i sacerdoti parlano in lingua italiana, qui non ci sono problemi. tutta la parte amministrativa viene fatta in lingua italiana. Inoltre non ci sono rilevanti conflitti di classe, le città sono poco popolose, la maggioranza della popolazione è dedita al primario, all'agricoltura, con uno spezzettamento enorme della proprietà. La popolazione è polverizzata in una marea, una miriade di più di 300 piccoli comuni arroccati nelle valli, comuni che sono autonomi, come le città maggiori che godono di uno statuto speciale di un'autonomia. I trentini in un certo senso sono soddisfatti delle strutture amministrative austriache che difendono. Se hanno dei problemi li hanno con Innsbruck, perché conservatore, perché ritengono che la loro economia sia subordinata a quella tirolese, belga, per il fondo provinciale di approvvigionamento. Invece guardano con una certa fiducia a Vienna, non fanno mai l'astensionismo a Vienna. Sperano che l'intervento di Vienna sia mediatore con Innsbruck. Il problema è quello dell'autonomia. Effettivamente qui non ci sono problemi, timori di snazionalizzazione, non ci sono. È vero, ci sono le società pangermaniste poi nel Novecento, ma lì il discorso è a parte. Io credo che una reale minaccia non fosse mai. Trieste, la situazione è completamente diversa. Il problema di Trieste è il problema della presenza slava, perfettamente ragione, ma è così pregnante la presenza slava da riverberarsi poi l'atteggiamento durante la prima guerra mondiale e durante addirittura le pressioni sul governo per le trattative in sede internazionali. Il problema è quello slavo. L'Italia non è sicura se non ha spezzato in qualche modo il pericolo slavo. Nel congresso di Roma delle nazionalità oppresse, no? Tenuto nell'ultimo anno di guerra, difatti non si presentano i triestini, si presentano i trentini, ma non tutti i trentini. Quello dell'associazione della democrazia sociale irredenta, dove c'è qualche triestino, dove c'è qualche trentino, è impensabile per i triestini di poter avere un futuro anche economico, anche politico, annesso all'Italia se c'è la presenza degli slavi. Trieste, questa è la mentalità di una parte dell'irredentismo slavo, Trieste sopravvive solo se accanto a Trieste si annette la Dalmazia, si annettono le isole, insomma, si sia al controllo dell'Adriatico. Ci sono delle affermazioni che sono addirittura clamorose in questo senso. O possiamo dominare tutto l'Adriatico o altrimenti Trieste muore. Ecco, problemi che non toccano il Trentino, perché è una vita a sé, una vita propria. Perciò qui veramente ci sono due irredentismi, vi sono due vie, due percorsi della difesa nazionale, quella trentina e quella triestina, nonostante la retorica del ponte che congiunge le città. No? Io vorrei approfittare della presenza dell'ambasciatore per brevemente riprendere un suo accenno della relazione di questa mattina, in cui cita i primi segnali che dal Trentino si cominciano a mandare a Roma, ma come lei ha detto, in realtà per dialogare con Vienna. Questo perché a me interessa in particolar modo le conseguenze politiche che questi problemi di identità, di confine, di doppia identità multiple o meno possono avere o meno. Anche riallacciandomi al problema del fatto che la storia viene spesso rimessa in base ai risultati che poi in certi momenti si sono verificati. Allora la domanda, anche se magari può suscitare qualche piccola polemica in base al momento storico che stiamo vivendo, ma secondo me è di attualità chiedersi anche dal punto di vista politico in relazione a vicende attuali, sia per quanto riguarda l'integrazione europea, sia per quanto riguarda i problemi di autonomia all'interno degli stati nazionali, proprio quelli europei, chiedersi dal punto di vista politico in che modo, io la domanda non è più precisa, sia in Trentino che a Trieste, questo problema di identità doppia o meno siano stati vissuti. Parrebbe per esempio che prima, che per certi aspetti, lei lo conferma parlando della buona fama, diciamo così, della buona accettazione da parte della popolazione trentina, dell'amministrazione austriaca, che le conseguenze politiche di questo tipo di identità non sempre per forza avrebbero potuto condurre al caso del Trentino l'annessione allo Stato italiano, nel caso poi di Trieste anche in quel caso, oppure mi domando se eventuali soluzioni politiche, io a questo punto è difficile parlare anche di federalismo ante litter, ma soluzioni politiche diciamo così di autonomie a sé stanti o meno siano mai nate, si sia mai posto il problema o meno, oppure il problema sia sempre rimasto fra quello, fra scegliere fra uno Stato nazionale o l'altro. Ora spero di essere stato più o meno chiaro. Vedo il tempo che per rispondere alla sua domanda bisogna tenere conto che fino alla prima guerra mondiale, e purtroppo in parte anche fino alla seconda guerra mondiale, il modello politologico vincente in Europa è lo Stato nazionale. Il modello vincente è lo Stato nazionale, cioè è lo Stato nazionale ciò che il più moderno il pensiero politico europeo ha concepito per la soluzione dei problemi del mondo, guardi, non soltanto per la soluzione del problema di Trieste. Ed è così vero che lo Stato nazionale è il modello politologico vincente, quello che dona di maggiore credibilità, quello che si presenta come il più aggiornato, il più moderno, il più innovativo, che, e questo è molto buffo e paradossale, perfino gli stati multinazionali imitano lo Stato nazionale. Persino gli stati multinazionali finiscono per adottare riti, liturgie, modelli di comportamento, modelli pedagogici dello Stato nazionale. Un caso tipico è quello della Russia. Non c'è stato più multinazionale dell'impero russo per certi aspetti. Certo l'impero austro-ungarico lo è maggiormente, ma su scala territoriale minore. Ebbene, lo Stato multinazionale russo, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, si comporta come uno Stato nazionale. Comincia a inventarsi la propria Odissea, la propria Iliade, la cantata delle geste di Igor, concepisce la propria storia come nel modo tipico delle pedagogie degli Stati nazionali. Gli Stati nazionali concepiscono la propria storia al modo di Omero, cioè siamo tutti discendenti di un capostipite della nazionalità. Questo è il concetto. Lo si inventa, non c'è nessuna preoccupazione, lo si inventa, poi gli si fa un monumento, e quando gli si è fatto un monumento esiste, non c'è nessun problema. È successo del resto in Jugoslavia, in Ungheria, con la celebrazione del millennio a Budapest, nasce il monumento a chi? A Santo Stefano. La corona, la fondazione della corona di Santo Stefano, e questo diventa il monumento del millennio, il capostipite. Allora è molto difficile porre un problema come l'ha posto lei. Non sarebbe stato più logico pensare a modelli di federalismo? Sì, sarebbe stato anche più logico, ma per la verità non ci pensava nessuno, perché nessuno ci poteva pensare. E le dirò anche un'altra cosa, a controprova di come fosse assolutamente inimmaginabile pensare a modelli diversi dallo Stato nazionale. In Europa nessuno sa come funziona la Costituzione degli Stati Uniti. Nel 1900, tra il 1900 e il 1915, le persone che in Europa conoscono il funzionamento della Costituzione americana si contano sulle dita di due mani. Andava meglio all'epoca di Tocqueville, per intenderci. Bene, grazie. Ma io volevo soltanto fare una riflessione su quello che è stato detto, finora mi viene in mente una cosa, cioè si parla di irredentismo tout court anche a Trieste, io parlo di Trieste, occupandomi di Trieste, ma molto spesso, per esempio, nelle mie ricerche soprattutto di archivio, io ho lavorato su archivi privati, su archivio di Stato, sull'archivio del Museo di Risorgimento, e a un certo punto mi è venuto un dubbio, ma ci sono forse varie forme di irredentismo, vari percorsi personali dell'irredentismo, verso l'irredentismo, varie espressioni di irredentismo, e forse riuscire a catturare, parlo proprio, penso che qui bisognerebbe proprio usare la storia sociale, immagino, le varie forme di adesione anche dilettantismo. Faccio un esempio: io, occupandomi di personaggi vicini alla comunità ebraica, appartenenti ancora iscritti alla comunità ebraica, oppure addirittura sconfessati, come si diceva a quel tempo, però comunque con delle radici ebraiche, mi ritrovo di fronte a personaggi abbastanza complessi. Faccio subito un esempio: Carlo Morpurgo. Carlo Morpurgo, lui è un iter di questo tipo, e da studente è all'interno di gruppi giovanili studenteschi da Giovani Trieste, se non sbaglio, dove porta avanti appunto anche questi sentimenti di tipo dentista. Poi invece, di fronte soprattutto alla virulenza antisemita che anche l'Italia attraverso il nazionalismo che non ci esprime, io spero presto di poter pubblicare un articolo recuperato in Israele, inedito di Carlo Morpurgo, che non viene mai pubblicato sulla vita di Roma. Lui abbandona il redentismo e si rifugia nel sionismo. Quindi un'altra forma, rimanendo però sempre italiano. Quindi questo è un esempio di percorso. Quindi un sentimento nazionale che ha mille facce, mille sfaccettature. Oppure faccio altri esempi. Recentemente ho visto anche i tribunali militari austriaci dal 15 al 17. Ed è, diciamo, una messa di fonti e di percorsi molto interessanti. Perché? Perché abbiamo tutti fuoriusciti proprio in questo periodo, e oltre, diciamo, alle persone più conosciute, gli intellettuali, abbiamo anche le famiglie della media borghesia, con una scheda familiare nella quale, per esempio, abbiamo scritto cosa avevano in biblioteca, che tipo di studi avevano compiuto. E quindi questo diventa forse anche una chiave di lettura. Infatti adesso la cultura che emerge, la formazione culturale è tedesca. Invece nelle biblioteche troviamo biblioteche dove non mancano mai i classici tedeschi, però troviamo tutti i testi più importanti sia della storiografia italiana, del periodo, che non mancano mai Mazzini, Garibaldi, queste cose qua. E quindi il discorso, secondo me, si fa molto complesso. Cioè, io penso sia un terreno ancora tutto da dissodare dal punto di vista storiografico, questo. Cioè, riuscire a capire al di là dell'intellettuale anche come la pensava la gente media, la media borghesia, che non ha mai prodotto, non ha mai scritto niente. In questi fondi, ad esempio, ci sono moltissimi carteggi che venivano poi sequestrati dalla polizia quando entrava nei vari appartamenti, e quindi abbiamo anche un sentimento diverso forse anche di adesione alle idee redentiste, e anche per cose familiari che si sdoppiano, che se ne vanno in mille rivoli. Non so, c'è un fratello va a combattere per l'Austria, l'altro fratello va a combattere per l'Italia, la madre scrive ad entrambi. E io penso che forse questo, accanto anche ad uno studio, penso anche dei percorsi educativi, cioè dell'educazione, questo penso si possa risalire, oppure anche attraverso, come suggeriva prima Blasina, attraverso la partecipazione ai vari circoli, associazioni sportive soprattutto, e forse riusciremo a dare anche forse una risposta molto più articolata a chi erano questi redentisti. Perché io questo che mi pongo sempre, chi erano? Non so, magari sono sempre confusa io. No, la cosa è molto chiara. Guardi, il redentismo è la volontà di far coincidere i confini nazionali con i confini statali ad opera di piccole minoranze, non grosse minoranze, rimaste fuori dai confini, cioè modificazioni di confini. In senso stretto, il redentismo è questo. Ma che poi questa esigenza si sposi con tutta una serie di esigenze di difesa nazionali, con infinite variazioni, con infinite oscillazioni, con infinite scelte, e questo è un dato di fatto in tanti percorsi personali. Quanti, anche nel Trentino, dove la lotta nazionale è molto più semplice, a Trieste, dove la lotta nazionale è molto più complessa, quanti in teoria, lontanamente, meno a Trieste, pochi anche nel Trentino, essere chiaro, vogliono la modificazione dei confini. Però tutti sono d'accordo sulla difesa nazionale. E allora ecco queste oscillazioni. oscillazioni che possono portare a un certo punto a optare anche per la soluzione territoriale, oltre che sulla soluzione istituzionale e su quella culturale. Ma c'è una oscillazione infinita. Difatti, anch'io dicevo, stiamo attenti, perché il ventismo molto semplice è quello che è un problema per la politica interna di diversi stati e per la diplomazia. Poi c'è tutto il problema nazionale, questo movimento, questo sfrangiarsi in mille rivoli della lotta nazionale. E questa volontà di conservazione nazionale può essere anche irrorata all'interno dell'irredentismo, ma può anche non accoppiarsi con l'irredentismo. Qui nel Trentino il caso tipico è tutto il movimento cattolico, che mai sconfessa l'appartenenza all'Italia, mai. Appunto, l'unica opzione verso la soluzione territoriale sia l'ultimo mese di guerra nel 18 da parte delle dichiarazioni dell'onorevole Conci. Prima no, però sinceramente noi non possiamo negare che soprattutto nel Novecento la Chiesa trentina fosse sicuramente un elemento di difesa della realtà nazionale. La difendeva per motivi che poi sentiremo analizzati dal professor Benvenuti. Però il redentismo, niente. E tutta la lotta per l'autonomia, che troviamo anche a Trieste, in difesa delle autonomie municipali, delle tradizionali autonomie. Quando il redentismo? Per conto mio non c'è il redentismo. È una forma di difesa della propria identità, anche se vogliamo nazionale. Però di redentismo non si parla. Vero, per taluno può essere una specie di ripiegamento su altri mezzi, non potendosi avere la modificazione dei confini. Però il 90% delle popolazioni che aderiscono alla lotta per l'autonomia qui nel Trentino, io penso alla petizione di 48.000 firme nel 1848, che vuol dire un plebiscito popolare per allora, per l'autonomia del Trentino. Quindi è condivisa da tutta la popolazione. Ecco, poi c'è un'altra cosa che volevo dire, la questione delle autonomie, del consenso all'amministrazione e consenso al tipo di strutture amministrative, che sotto certi aspetti erano veramente all'avanguardia. Guardate che gli italianissimi trentini, passati all'Italia, dicono il nostro cuore palpita di italianità, di purezza nazionale, però ci conservate le autonomie, quella provinciale e anche quelle comunali, e soprattutto quella che dà particolari statuti propri alle città maggiori, ce le conserviamo, e può essere anche un modello per il resto d'Italia. Qui non c'entra niente austriacantesimo o meno. De Gasperi, quando ne parlava al Parlamento italiano nel 21, non è perché fosse austriacante, perché era un modello di forma di vita costituzionale, istituzionale, amministrativa, ma era penetrato nelle popolazioni, che era pienamente condiviso. Non importa se di marca italiana o di marca austriaca, era condiviso e accettato nei discorsi della colonna, accettato da Giolitti, poi interviene il nazionalismo fascista e questo viene cancellato. E guardi che per conto mio l'asse della storia portante del Trentino va vista in questa direzione più che nella lotta irredentistica. Non solo, ma c'è tutto un altro aspetto, tutto l'apporto che i deputati triestini del litorale trentini hanno dato, per esempio, nei parlamenti viennesi. C'è tutta una storia qui da riscrivere. Quanto hanno collaborato alle riforme, alle modificazioni costituzionali, alle riforme nello svecchiamento dello Stato? Hanno puntato una mano. Cioè, poi nella vita concreta, la gente del litorale, come le classi dirigenti del litorale, le classi dirigenti trentine, non è che avessero il chiodo fisso dell'irredentismo in testa. Nelle situazioni concrete hanno lavorato per motivi sociali, per motivi economici, per motivi amministrativi, per motivi politici, motivi strutturali. Una delle più belle pagine della storia trentina è l'età dell'amministrazione di Paolo Smazzurana di Trento, che ha visto un miracolo economico nella città, ammirato per prima Francesco Giuseppe, italianissimo era Smazzurana, italianissimo. Forse anche voi pensavo un domani alle modificazioni delle frontiere. L'esempio tipico è Sigel, campione di irredentismo, però non ha mai chiesto una guerra contro l'Austria. La sua è una battaglia di carattere culturale. culturale. Perciò appunto credo che veramente, dopo tutti questi suggerimenti, ancora di più siamo convinti che non dobbiamo vedere la storia del litorale del Trentino soltanto nella divisione dell'irredentismo, perché perderemo, penso, l'80, se non il 90% della storia di queste province. Quando l'ambasciatore romano ha ricordato giustamente che la cultura prevalente, la cultura politologica che funzionava all'epoca era la cultura statale, e su questo siamo d'accordo. Però io, studiando gli emigranti liguri, proprio di quell'epoca di nazionalismo imperante, ho visto che loro hanno sfruttato questa cultura nazionalistica per comprendere la loro esperienza di sradicati, sentendosi e vivendosi proprio anche nei gesti quotidiani di divisione dell'eredità, per esempio, come figli di due nazioni. E ritorna moltissimo sia sulla stampa locale che poi in fondi personali, per esempio orazioni, testamenti, appunto lasciti, che sono numerosissimi. Praticamente tutta la zona del Chiavarese, da cui partiva l'immigrazione ligure per Buenos Aires, è e si sente figlia dell'Italia e figlia dell'Argentina, e queste dichiarazioni rimangono fino in età fascista. Allora, cioè, nel Trentino, dove lei ci ha detto convivevano senza problemi gravissimi, non ci sono mai state delle persone che sono riuscite a superare l'idea di dover appartenere o agli uni o agli altri per sentirsi figli di tutti e due e dichiararlo, cioè? No, convivevano, non convivevano, perché la separazione etnica era nettissima nel Trentino. No, come personalità singola. Ecco, come personalità singola, la massa dei contadini, evidentemente, era una massa di popolazione obbediente, dice, che vedesse i testi delle scuole elementari fino alla seconda metà dell'Ottocento per creare il buon subito. Sono qualche cosa di inenarrabile in italiano, ma sono addirittura, io non li sono letti dalla fine del Settecento fino alla metà dell'Ottocento. E immaginate come si crea il buon subito fedele che paga le tasse, altrimenti fa peccato mortale. No. Perciò vengono su, parlano italiano, hanno una coscienza italiana, però sono di buoni fedeli sudditi, sanno tutti leggere e scrivere nel Trentino, ma sudditi fedeli, le classi dirigenti, le classi intellettuali, e certo la loro cultura è sicuramente italiana, il loro animo è italiano, però sentono della mancanza di un'università italiana, quando non possono più adire alle sedi universitarie del Veneto e della Lombardia dopo le guerre di indipendenza. Però direi che sì, beh, molti anche emigrano nel Regno, ci sono molti intellettuali che cercano lavoro nel Regno, però io mi sono domandato anche questo: questa gente trovava lavoro nella parte italiana del Tirolo, che è molto limitata, non c'era posto per tutti. Io non so proprio se tutta quell'immigrazione fosse solo cattiva, mi perdonino gli spiriti nazionali del Trentino, bene, però forse l'emigrazione di molti che hanno posti poi di prestigio o nelle biblioteche, negli archivi, nelle università, non lo facevano proprio per risolvere il problema di lavoro, certo in modo gratificante perché sono nell'area italiana, però insomma la manodopera intellettuale che poteva essere assorbita nelle istituzioni italiane era minima. Certo, c'è questo disagio di vivere ai limiti di uno Stato in una provincia piccola, piccolissima, che non dà sviluppo per gli intellettuali, però ritengo che nel Trentino drammi come quelli avvenuti a Trieste non ci siano, nel modo più assoluto. Anche perché poi questi intellettuali che andavano in Italia, c'era un'osmosi alle frontiere, erano sempre qui, passavano qui gran parte dell'anno, senza noi, sì, c'è lo strato di Sigele, ma qualche unico caso. Altrimenti andavano e venivano tranquillamente, e qui avevano beni, avevano parenti, facevano conferenze e poi tornavano in Italia. Bene, perciò io proprio il dramma del Trentino non lo vedrei, sinceramente. Volevo ritornare sul tema delle sue ricerche a proposito degli intellettuali irredentisti. Non vorrei fare questa festa, ma c'è un rischio a fare la guerra, a fare la storia dell'irredentismo attraverso gli intellettuali. No, io non faccio sull'intellettuale. No, ho capito. Ma lei si era posto il problema di questi percorsi individuali. Sì. I percorsi degli intellettuali sono necessariamente dei percorsi individuali, e c'è da chiedersi fino a che punto sono indicativi e rappresentativi. L'intellettuale è spesso motivato da ambizioni fortemente personali. Non si dimentichi che all'interno di un gruppo minoritario, in uno stato multinazionale, l'intellettuale è sempre di gran lunga il personaggio più frustrato, perché vede di fronte a sé bloccati certi accessi e certe promozioni al potere intellettuale, intendo, non al potere politico, che non sono invece necessariamente validi per personaggi attivi in altri settori della società, l'economia, il commercio, per esempio. È evidente che ogni qualvolta noi andiamo a osservare il comportamento degli intellettuali all'interno di gruppi minoritari in stati multinazionali, constatiamo che sono i più inquieti, quelli che provano un maggiore disagio, le loro ambizioni non vengono riconosciute, non vengono gratificate, sono sempre naturalmente i più frustrati. Le faccio alcuni esempi recenti. Negli ultimi 30 anni non c'è mai stato il nazionalismo ucraino. Il nazionalismo ucraino se lo sono letteralmente inventato negli ultimi 2 o 3 anni. Ma c'è sempre stata una piccola minoranza di intellettuali ucraini frustrati che vivevano a Famorno di Baviera, Montreal e New York, e i quali in qualche modo vedevano nella nascita di una nazione, di una patria ucraina, la soddisfazione delle loro ambizioni, le quali generalmente sono quelle di diventare ministro della pubblica istruzione, provveditore agli studi, accademico finalmente di un'accademia nazionale che altrimenti non verrà mai creata. Ci sono queste ambizioni, ora non dico che non siano legittime, per carità, tutte le ambizioni sono legittime. Stiamo attenti a non farne episodi indicativi di irredentismi veramente diffusi. Gli irredentismi veramente diffusi e radicati nelle popolazioni sono quelli che hanno una motivazione religiosa. Ci giri attorno finché vuole, ma alla fine scoprirà che c'è sempre un dato nazionale religioso all'interno. E allora che cosa succede? Succede che l'irredentismo nazionale religioso può benissimo risolversi, se è l'indicazione di identità nazionale religiosa, può benissimo risolversi con forme di autonomia all'interno dello Stato multinazionale. Il clero trentino non ha mai avuto problemi. Non voleva essere spossessato del proprio gregge, questo no. Non voleva essere spossessato del proprio gregge, ma se a Vienna, a Innsbruck e soprattutto avendo poi l'appoggio di Roma, gli si permetteva di amministrare le proprie anime tranquillamente nella propria lingua, tenendo d'occhio la tipografia vescovile, eccetera, eccetera, cosa vuole che facesse? Era felice, ma era più che contento. I guai cominciano quando il clero diventa dirigente di una minoranza religiosa minacciata da una maggioranza di altra religione bellicosa e aggressiva. Allora a quel punto cominciano i guai, e quelli sono i guai degli Uniati, sono i guai della Jugoslavia in parte, quelli sì sono grossi guai che danno luogo a forme di irredentismo particolarmente cruento. Ma finché il clero riesce a amministrare il proprio gregge all'interno di uno Stato multinazionale con la formula dell'autonomia non ci sono problemi. Posso, magari, a questo punto non so quali limiti dobbiamo fissare alla nostra discussione, se siete d'accordo possiamo ancora andare avanti, e volevo anzitutto anch'io fare qualche considerazione prima. Lei ha sottolineato, credo in maniera molto giusta, la complessità di certi fenomeni, quindi meglio e più che di irredentismo, il singolare, dobbiamo effettivamente parlare di irredentismi al plurale per cercare di cogliere la complessità di questo fenomeno. E d'altra parte una certa consapevolezza di questa realtà era già presente, perlomeno nel quindicennio che precede la prima guerra mondiale. Slater definiva in termini di irredentismo culturale, quindi evidentemente questo era in contrapposizione con un irredentismo politico o politico territoriale, la posizione dei Vociari Triestini, la posizione del suo gruppo. E probabilmente bisogna andare anche molto più in là, non tanto forse per penetrare la categoria dell'irredentismo, degli irredentismi, ma per capire effettivamente la realtà di questi territori e quindi cercare di studiare, per esempio, piuttosto la formazione di coscienze culturali, nazionali, linguistiche, che sono in fondo forse la forma più importante delle manifestazioni di italianità o di una coscienza nazionale slava, slovena o croata nel litorale adriatico. E è vero anche nello stesso tempo quello che lei dice sui percorsi individuali, che sono poi estremamente vari, che sono effettivamente proprio molto spesso percorsi individuali, che quindi non possono essere riportati a degli schemi, e questa naturalmente è anche la pericolosità di certi studi, che c'è il rischio ad un certo punto di lasciare. Diceva Franco Venturi che quando lui parlava con Maturi del metodo di Denier, e Maturi da buon napoletano gli diceva: ne studi uno, ne studi due e poi ti scocci. E quindi diventa effettivamente abbastanza difficile seguire questi percorsi, però effettivamente è una ricchezza e bisogna probabilmente anche stare attenti se in determinati casi si sopravvalutavano le cose in un senso, adesso c'è il rischio forse di sopravvalutarle in un altro senso. Per esempio anche la conoscenza, mi pare che addirittura Croce dicesse, quando vedevo un triestino, lei è triestino e perciò è bilingue, cosa che naturalmente non era neppure allora assolutamente vera. La conoscenza del tedesco dipendeva dall'ambiente familiare, dalla scuola che si sceglieva o che i genitori sceglievano, dalla frequenza anche delle università. Per esempio nella famiglia molto numerosa di mio nonno, erano 9 fratelli, loro avevano frequentato le scuole italiane, il tedesco l'hanno imparato bene solo quelli che sono andati a fare l'università a Graz o a Vienna. Quindi effettivamente è molto difficile attestare così l'effettiva presenza delle varie culture negli itinerari personali. E in certi casi, adesso non voglio scendere proprio nell'aneddotica, ma mi pare che sia abbastanza importante come esempio, certe scelte poi possono, in base alle circostanze della vita, anche essere completamente vanificate nei periodi successivi. C'è uno studioso illustre, il trentino di diritto romano, Mariano San Nicolò, che nel 1914 e prima del 14 si batteva come un leone per poter avere un posto nella costituenda e sempre sperata università italiana. Poi naturalmente, siccome non trovava un posto nell'università italiana, è andato a fare il romanista in un'università tedesca, ha insegnato a Monaco e poi nel 1938 addirittura ha pensato di andare a continuare la sua missione germanica all'università di Praga, quando Hitler è arrivato a Praga e professori tedesco, austro-tedeschi, democratici, ebrei come Kelsen hanno dovuto andare e lasciare l'università di Praga, il giornalista italiano è andato invece a fare la sua missione civilizzatrice nell'università ormai nazificata di Praga. E con l'altro problema che ha sollevato in particolare lei è della identità, della doppia appartenenza. Ecco, effettivamente credo che anche questo sia un problema che vada visto nelle diverse fasi del suo sviluppo, cioè a parte i casi individuali di doppia appartenenza che naturalmente possono sempre verificarsi, anche qui la forte discriminante è rappresentata dal momento in cui si afferma la concezione di Stato nazionale. Prima la doppia appartenenza era un fatto comune, non c'era nessun problema, le doppie lealtà rappresentavano qualche cosa di comune, basta per non uscire da questo territorio. L'aristocrazia trentina non aveva nessuna difficoltà, o trentino-tirolese forse, perché non era neppure trentina, a considerarsi, a qualificarsi come austriaca e nello stesso tempo italiana. Antonio Salvotti scriveva, quando era a Innsbruck, lo considerava come un esilio, diceva: io sono italiano, voglio tornare in terra d'Italia. Eppure naturalmente non c'era nessuno più fedele a lui, ai valori della monarchia multinazionale. Poi, laddove si affermano determinate concezioni prevalenti, questa realtà invece sembra una realtà che non può più sopravvivere. Dico sembra perché in realtà poi anche in questo caso le storie individuali naturalmente si sono molto discostate da questi fenomeni prevalenti. E poi l'ultima osservazione non è che in questo periodo non si siano sviluppate naturalmente, anche se in tono minore rispetto alla visione dello Stato nazionale, anche all'interno della stessa monarchia asburgica, delle visioni federaliste. Basta pensare a quella della socialdemocrazia austriaca, solo che probabilmente questa concezione si scontrava con degli obiettivi limiti di fatto, che erano quella della forte prevalenza di un ceto dirigente intellettuale austro-tedesco all'interno della socialdemocrazia austriaca, e la posizione in fondo prevalente che all'elemento tedesco questa concezione riservava all'interno della monarchia austriaca. Ma l'opzione federale, l'ideale della trasformazione dell'Austria, come si diceva allora, in uno Stato federale delle nazionalità, rappresentava pur sempre un'opzione politica che, per esempio, i socialisti triestini hanno costantemente tenuto in considerazione. Certo, era l'alternativa probabilmente in quel determinato momento storicamente più debole, quindi destinata ad essere sconfitta. Volevo solamente riprendere quest'ultima suggestione dell'ambasciatore romano sull'importanza anche dell'elemento religioso su queste nostre tematiche. Però poi avremo altre relazioni, quindi ci sarà modo di discutere circa le varie chiese locali. Quindi, cioè, la questione, appunto, forse che volevo porre anche come domanda, insomma, quello perché ho detto per conoscere. Riguarda invece l'atteggiamento della Santa Sede, della Chiesa Cattolica, al di là, diciamo, delle singole, o in rapporto con le singole chiese locali. Insomma, tra i miei studi mi è capitato di notare con qualche attenzione il fatto che ancora intorno al 1880 il pontefice, pensando di doversi allontanare da Roma a causa di alcuni, appunto, eventuali moti democratici, pensasse a Trento come possibile luogo, appunto, per dire, appunto, come non ci fosse il dramma a Trento, dato che il pontefice pensava di andare, appunto, a Trento in alternativa, per esempio, a Malta, un altro posto che aveva, appunto, considerato. Naturalmente quella cosa fu scartata sia perché non ci furono i moti, sia perché fu l'isolamento della Santa Sede era molto forte, e anche le richieste da parte della Sorgheria e anche della Spagna non volevano, nel senso di stare tranquillo a Roma. Ma invece, ecco, negli altri territori che noi adesso prendiamo in considerazione, sia l'Alsazia-Lorena, sia Trieste e la costa della Dalmazia, la situazione era legata a un clero che si rivolgeva sia al gruppo, attenzione, sia al gruppo con l'Alsazia-Lorena francese che al gruppo tedesco, cioè sentiva, cioè, che giungevano a Roma dei rapporti sia dal dal gruppo francofono dell'Alsazia-Lorena, sia delle suggestioni da parte del governo prussiano e appunto dell'impero verso la nomina di alcuni vescovi, per esempio, per la zona. Invece per Trieste e per il litorale poteva cambiare lo stesso, cioè era magari l'elemento cattolico a protestare con un vescovo troppo filo sloveno. Quindi quel nesso tra appunto che crea un trauma legato al fatto nazionale religioso. Qui se sembra complicarsi dal fatto che, pur essendo una, diciamo, la dimensione religiosa, non è quella cattolica, anzi tende a smorzare e tende a trovare delle soluzioni di mediazione tra i diversi segnali che vengono appunto mandati a Roma. Da una suggestione, ma anche un interrogativo su appunto questi problemi che. Ma ecco, qui ci addentriamo nella politica generale ecclesiastica della Chiesa di Roma, e su questo il grande esperto, il professor Benvenuti, che parlerà il giovedì prossimo. E certo che l'opzione dell'uno dell'altro vescovo portava veramente a dei grossi problemi, perché cioè, la politica del singolo vescovo in questi territori era veramente una politica importante anche dal punto di vista nazionale, controllata qui nel Trentino, molto controllata dalle autorità politiche di polizia austriache anche, che non dimentichiamo che i rapporti fra Stato e Chiesa nella cosiddetta cattolicissima Austria poi non erano mica facili, soprattutto dopo le leggi del 68 e quelle del 74, cioè le cosiddette leggi confessionali, che in realtà avevano molto schiericalizzato l'Austria, perciò vi era un controllo politico non da poco. E io ho visto La Voce Cattolica qui nel Trentino, giornale fedelissimo allo Stato, però censurato. Io ho visto più fogli bianchi censurati sulla Voce Cattolica che non sulla tua Adige Liberale. Cioè, il controllo dello Stato era ben piuttosto pesante, che non c'è soltanto il problema della Chiesa nei confronti del problema nazionale, c'è il problema della Chiesa nei confronti delle direttive dello Stato. Mi pare che i problemi sono di duplice ordine: rapporto istituzioni religiose Stato, istituzioni religiose con quella che è la realtà nazionale. Semplice nel Trentino, a parte il problema delle alcune parrocchie e in paesi tedeschi annessi alla diocesi di Trento, un problema che si trascina dall'Ottocento fino a quasi ai giorni nostri e che dà grossissime preoccupazioni anche al vescovo Indrici, questo problema delle parrocchie appunto in lingua tedesca. Credo che questo vada esaminato diocesi per diocesi, il problema per esempio dei vescovi filoslavi sul litorale, il problema è dei vescovi filo austriaci o filo italiani nel Trentino, sono casi singoli. E quando poi a povera Pio IX, che desidera il Trentino, nei documenti pubblicati anche dal Salata, perché venendo a Trento pensava sì di essere in territorio vicino alla cattolicissima Austria, ma di poter avere ancora il cielo, il colore, la vegetazione dell'Italia. In realtà poi Francesco Giuseppe molto fortemente disse: resta dove sei, così come fu rifiutata l'ospitalità anche da parte della Germania e anche da parte di terra, insomma. Sì, guarda, resta dove sei, noi ti comprendiamo, però ci crederanno internazionali con lo spostamento da Roma. Molto saggiamente questo, perché poi il problema andò a decantarsi, ma credo che il suo problema vada veramente visto vescovo per vescovo, diocesi per diocesi. A parte poi il problema dei rapporti con Roma, sul quale abbiamo qui l'esperto. Sì, voglio dire, anche bisogna considerare che la diocesi di Trento faceva parte della provincia ecclesiastica di Salisburgo, e attraverso questa c'era una linea diretta, vero, da Salisburgo a Vienna. Quindi era tra Roma e Vienna il vescovo, e vero, dopo il 1818, vero, dopo che vero, passa da immediato della Santa Sede a vero, provincia ecclesiastica, quindi di Salisburgo, c'è una tendenza a guardare più verso Vienna che verso Roma da parte dell'autorità ecclesiastica. Allora vediamo vescovi, vero, come l'Occidere, che poi era di nazionalità tedesca, il Riccabona, il Della Bona e il Valussi, inclinare più verso proprio Vienna e un atteggiamento di favorire, insomma, per favorire l'elemento tedesco. È quel dal 1904, col vescovo Enrici, che veramente si guarda nuovamente da parte dell'autorità ecclesiastica verso Roma. E quindi si favorisce di più l'elemento anche italiano, proprio per quella concezione anche a cui accennato la passata Barbari, vero, del cattolicesimo come romanità, vero? Questa è una concezione tipica del vescovo Enrici. I vescovi precedenti, se il vescovo Enrici è un vescovo, è stato detto da Suor Corsini italianizzante in un convegno, vero, sul vescovo Enrici, gli altri vescovi bisognerebbe dire che sono dei vescovi tedeschizzati. Addirittura il vescovo Della Bona, per esempio, vero, e dopo concludo, e voleva, vero, l'ho visto in una lettera alla Lontenenza di Innsbruck, conservare il Deutschtum, la nazionalità tedesca, nella città di Trento, proprio attraverso i seminaristi tedeschi, proprio per dargli impronta tedesca. Il vescovo Della Bona faceva trasferire, vero, vescovi e parroci proprio per conservare nelle scuole questa, questo carattere tedesco. Però è col vescovo Enrici veramente che si guarda verso Roma e la Chiesa Tridentina ha questa aspirazione veramente nazionale, non irredentistica come giustamente sottolineato, nazionale come difesa di cultura, è vero, e di lingua. Mentre il problema dell'irredentismo, come tipica il problema del territorio, ovvero dell'unione della madre patria, questo è un problema che si pone dopo l'entrata in guerra dell'Italia, vero, per il clero trentino. E allora sì, sono 60 sacerdoti addirittura, vero, deportati, il vescovo Heiligenkreuz in esilio, allora paga la Chiesa trentina veramente, vero, questa sua vero fedeltà alla nazione. Prima però nel corso dell'Ottocento non abbiamo questa però chiesa di valori diremo nazionali da parte dei vescovi, diremo, e della gerarchia ecclesiastica, non dei singoli vero sacerdoti, perché ci sono anche delle eccezioni. Per non creare problemi, perché qui non siamo fra trentini, ecco, e questa, diciamo, telespitazione della buona, eccetera, eccetera, però va precisato che tutto l'insegnamento della dottrina è di lingua italiana, nessuno manipola l'uso della lingua italiana nelle scuole per la dottrina, la lingua usata dal clero, nella parte italiana della diocesi, sempre quella italiana. Io volevo fare una domanda e poi anche una precisazione. La domanda è questa: prima si parlava dei percorsi individuali degli irredentisti, quindi la necessità di parlare di diversi irredentismi. Mi riferisco in particolare a quello triestino, più che destino a quello della Venezia Giulia. La domanda è questa: che incidenza ebbe il passaggio dall'irredentismo al fascismo? Perché questo argomento non è stato toccato e volevo proprio chiedere alla professoressa Garbari un chiarimento su questo problema. L'aneddotica di cui parlava il professor Ara prima, io mi sono imbattuto nella figura di un irredentista che poi ebbe una grande importanza a Fiume, che era Icilio Bacic. Icilio Bacic, che fu anche fu vice podestà di Fiume, venne in Italia da Ancona, italianizzò il suo nome e si chiamava Icilio Bacci. Infatti sul dizionario biografico degli italiani è ricordato come Bacci, non come Bacic. Divenne poi fascista, senatore del regno, e poi nel 1945 non si è mai saputo che fine abbia fatto, perché lui ed altri esponenti di questo gruppo irredentista che erano confluiti nel partito fascista furono eliminati, scomparsi, furono eliminati, almeno si dice, dai titini. Ecco, questo problema del passaggio dall'irredentismo al fascismo mi ha ritornato nella mia mente dopo aver letto la rievocazione che Leo Valiani ha fatto della Fiume dell'immediato dopoguerra sull'ultimo fascicolo della nuova antologia, in cui lui ricorda anche proprio la figura di Cirio Bacic. La precisazione che volevo fare sull'intervento, sulla replica di questa mattina dell'ambasciatore romano e anche del professor Ara, la posizione di Albertini e del Corriere della Sera a proposito delle questioni balcaniche e della nazionalità oppressa. Allora, su questo problema io ho letto tutto il Corriere della Sera dal 13 fino al 18, soprattutto tutte le note, le corrispondenze di politica estera. Quindi, professor Ara, le volevo dire che il passaggio della posizione di Albertini sul sostegno alle nazionalità oppresse, e quindi anche su una diversa soluzione anche da dare al problema delle nazionalità nell'Austro-Ungheria, io credo che sia databile intorno al 1914. Perché? Perché nel 1914 passa a condurre la redazione di politica estera del Corriere della Sera Giovanni Amendola, che fino al 1914 era il Resto del Carlino. Il Resto del Carlino, che era diretto da Mario Mistiloli, aveva anch'esso una forte connotazione, diremmo, filo irredentista. Per esempio, Virginio Gaida pubblica articoli su Il Resto del Carlino. Lo stesso Icilio Bacci pubblicò un articolo sulla situazione di Fiume, sul Resto del Carlino di Mistiloli, con una forte connotazione anti-ungherese. Siamo sempre nel 1912 e 13, e in quegli anni il capo della redazione esteri del Resto del Carlino era Giovanni Amendola. Poi passa al Corriere della Sera e quindi c'è questo passaggio. Quindi io non credo che ci sia un problema di quattrini che Albertini volesse più o meno guadagnare, c'è un problema molto probabilmente di impostazione diversa. Prima a guidare la redazione esteri c'era l'onorevole Andrea Torre, che aveva molto probabilmente anche altri interessi di politica interna, perché era un onorevole, quindi era molto distratto dalla vita politica, dall'attività parlamentare, e poi entra in campo Giovanni Amendola. Quindi questa potrebbe essere la spiegazione. Il professor Ara, mi scusi se ho sostenuto una tesi diversa dalla sua, ma mi sembra che l'analisi del Corriere della Sera sia chiara da questo punto di vista. Per carità, non siamo ancora arrivati alla meditazione di questo punto, per cui no, tirandolo per tutto, ecco, adesso lo so, io non ho questa conoscenza del Corriere negli anni dal 1913 in avanti, ma d'altra parte credo che si possa dire che ogni problema ha pur sempre, dico, una sua genesi, un momento di esplosione. Il problema delle nazionalità oppresse d'Austro-Ungheria è naturalmente un problema reale, ma basta vedere il primo capitolo del libro di Leo Valiani per poter effettivamente affermare come questo problema rappresenti in questo momento una realtà che non è ancora in grado di esplodere, di venire in superficie. E nel 1914 neppure Maastricht sa bene che cosa fare nell'immediato futuro, e quindi non so se si possa dire che a partire dal 1914 o 13 il Corriere scelga questa linea di appoggio alle nazionalità oppresse d'Austro-Ungheria. E per l'altro problema, adesso cedo poi la parola alla professoressa Garbari, all'ambasciatore romano, ma non vorrei anche nello stesso tempo che mettessimo troppa carne al fuoco. Il passaggio dall'irredentismo al fascismo potrà essere l'oggetto probabilmente di un altro seminario, ma i temi dei quali ci dobbiamo occupare, o ci vogliamo occupare in questi giorni, anche per cercare proprio di mantenere questo equilibrio con i nostri amici e colleghi tedeschi, sono dei temi che arrivano fino alla Prima Guerra Mondiale in maniera da dovere necessariamente, in un certo senso, sfuggire a questi interrogativi pur così importanti, che sono quelli di vedere come in una determinata situazione, d'altra parte la spiegazione anche elementare potrebbe essere abbastanza facile, in un clima reso teso dalla vittoria mutilata, in un clima reso ancora più teso dal fatto che lungi dallo svanire il contrasto italo-slavo nella Venezia Giulia si fa sempre più forte, mi sembra che questo rappresenti già un elemento che ci aiuta a capire come e perché gli anni dell'immediato dopoguerra rappresentano un clima favorevole non tanto alla incubazione del fascismo in queste zone, che a mio parere come fascismo di per sé viene da fuori, ma come clima nel quale il fascismo poteva con molta facilità attecchire, utilizzando proprio questi antichi contrasti e questa tensione esistente nell'opinione pubblica. No, il professore ha già risposto lei, perché in realtà è la stessa risposta che avrei potuto dare io. Dobbiamo fare un altro seminario dell'Istituto Storico Italo-Germanico su questo tema, che è veramente enorme. Possiamo affrontare un discorso che sarebbe molto complesso e compromesso e molto schematico se non affrontato e sviluppato nella sua ampiezza. Dal irredentismo escono fascisti convinti e antifascisti anche convinti. Io dovrei dare retta al professor Ara e non cercare di rispondere alla sua prima domanda, ma le darò una risposta breve e provocatoria. Gli unici, anzitutto c'è il libro di Giuliati, naturalmente la Vigilia, che fa certamente la pena di leggere per conoscere i rapporti tra l'irredentismo e il fascismo. Avrei tendenza a dire provocatoriamente che gli unici irredentisti antifascisti sono quelli che sono morti prima del fascismo e di cui si può dire impunemente che sarebbero stati antifascisti. Ma questa è una risposta provocatoria. Allora, per Albertini, sì, certamente a partire dal 1914 si può cominciare con Amendola a notare una maggiore sensibilità del Corriere della Sera per le popolazioni di lingua italiana all'interno dell'impero. Però vede, fondamentalmente quello non era irredentismo, quella era sensibilità per il destino delle popolazioni di lingua italiana all'interno di un impero di cui certamente il Corriere della Sera riconosceva l'esistenza e l'utilità. Il problema comincia quando a un certo punto l'Austria sembra non poter più sopravvivere e allora sì, ci si pone veramente il problema del che cosa fare, e credo che questo il Corriere della Sera lo affronti soltanto a partire dal 1917 con la famosa polemica contro Sonnino. Prima Amendola introduce all'interno del Corriere della Sera una maggiore sensibilità per le popolazioni di lingua italiana. O poi quanti che io non ho detto che per Albertini tutto era un problema di quattrini, non credo che il problema fosse quello. Come tutti i grandi industriali e grandi impresari, Albertini considerava il denaro come una misura del successo, ma era il successo che lo interessava, non il denaro.